10. Pappa, io ci sono. Se vuoi fare adesso il conservatore, posso stare a sgolarmi. Il segnale è 9, ma il radio non capisco, l'accidente, tutto tutto in passato. No, io c'avevo anche... avevo provato con l'amplificatore, ma mi amplificava anche i rumori e cose. Non riuscivo a sentire, era in mezzo... si sentiva ogni tanto, ma in mezzo ai rumori. L'amplificatore lì, stavo già spiegato, sono così, no? E questi della radio portano segnale normale, senza mondezza e anche la modulazione, ma da 5 l'ho portato a 9 di segnale. Però la modulazione è tutta impastata, non si capisce niente, non riesco a seguirlo, capito? Vabbè, questo poi è una radio particolare, perciò tira fuori anche le mosche. 9,50, l'ho fatto un 7 con l'equalizzatore, questo c'è l'equalizzatore incorporato, processore, compressore. Questa è una bestia. Ok, va bene. Va bene. Oh, Grotta, sei passato qua? Tappa, non mi avete detto niente, ero lì un attimino, mi sono allontanato, sono rientrato e ho sentito silenzio, pensavo che foste andati tutti quanti a mangiare. No, volevo parlare solo al Salvatore, mi sono spostato su 10, volevo fare l'intermediario con uno che non... di radio non lo sento io, cioè lo sento di segnale benissimo, forte, però la radio è incomprensibile, capito? Sì, ma tu non l'ascoltavo neanche, sembrava che foste parlando con nessuno, capito? Rientro anch'io qui. Magari si è anche sbagliato e magari ci stavano sgolando per niente, magari ha scambiato qualcheduno con Salvatore, ma da vedere, si è salvato. Infatti, penso a quello che hai detto. Ha pagato, è lui. Sì, sicuramente è così. Ma se no basta andare in FM e magari se non arriva più forte, capito? Sono tutto scusi. Vabbè. Salvatore, mi ascolti? Non ti dare, mi è passato qua, ti sta chiamando di nuovo. Bene. Salvatore! Non ti sente Salvatore, no, Ninni, non ti sente. Sono Ninni, Salvatore! Chi sei? Tutti Monossani! Ha la voce tipo B2. Parla piano, non gridare, dimmi chi sei. Salvatore, sono un collega di Salvatore. Sì, Antonello di Salvatore. Salvatore, non ho capito la minchia. È Antonello di Salvatore. Il collega. Aspetta, non mi parlare sopra. Come ti chiami di nome, Antonello? Ninni, Ninni. E cosa c'entra Antonello? Se ti chiami Ninni, chi è questo Antonello? Collega, che Antonello? Collega. Ah, sì, Ninni, collega di Antonello, Salvatore. Non lo senti? Ninni, collega di Antonello. Ninni, collega di Antonello. Non è un mio collega di un... non è un mio collega di lavoro. No, credo che si stia confondendo. Guarda, se adesso mi riesce a sentire, guarda. Ascolta me, Ninni, ascolta, parla con me, intanto loro non ti sentono, parla con me. Salvatore dice, se sei un suo collega, ma tu in quale settore lavori? Fammi capire a me, poi io ti dico se stai sbagliando persona, ok? Nel settore del pelo. Nel settore... Del pelo. Ascolta, non scherzare per favore, che qua non stiamo scherzando, ok? Vaffanculo, Antonio Grotte, vaffanculo! Andiamo, mi fai suonare, già quella non lo sente, vai a fanculo! se ti fossero io, la mazza di Nivaria, perché è attaccato a me qua. Guarda, sì, non ti dico cosa sì, già non li ho voglia, cazzo, mi fai anche sgolare. Stavo per mandarlo a cagare, lo sai che io resisto poco. Vabbè, gli volevo fare il supercazzo l'osservatore, però non mi sentivo. Stavo a piedi con me, non ci compreso. E poi ho già capito quando ho detto, in che settore, sai cosa mi ha risposto? Detto cane morto stavolta, ho detto in che settore lavori, per capire che sono che lavori tu, ma ha detto nel settore del pelo. Che scemo. Guarda, per il mezzo di Giotto Romero, guarda le mail, muoviti perché ti spedisco questo problema che ti vanno a accenare, mi allontano dai un attimo. Ci sentiamo dopo se coincide, grazie Claudio, ma fino all'ultimo ti ho detto voglio parlare con Salvatore, voglio parlare, però non mi sentiva perché ero con l'Indicom portatile, presente quello che c'ha l'alta e la bassa potenza, però con l'antenino di gomma vi arrivavo davvero basso. Dai, grazie per la risata e ci sentiamo dopo, ciao, già riprendi tu, dai. Scusa, tu se ti ho detto questa parolaccia, cazzo, mi è uscita spontanea, mi è uscita spontanea, cane molto che non sia altro. Ti uia, riprendi. Ok, tutto, cutici urgente. Io facendo capito l'educato, cercando di fare ponte, e lui prende il nome in giro, la matta che tiene varia, vai Gianni. Salvatore, cosa c'è di urgente, avanti. Ti risulta che ieri lo stiamo sentendo nella bandiera amatoriale che non c'è più bisogno del luogo di stazione? Ma me stai dicendo? Venga. Guarda, come te l'hanno data io te la faccio prendere se mi fai un'altra domanda del genere. Negativo nel modo più assoluto. Il luogo di stazione per l'animatore è obbligatorio. Non da Frilletti, per cui ho detto evidentemente è una news, poi io non ho avuto il tempo di andare a fare delle ricerche e quant'altro. E questo è, volevo sapere se ti risultava. No, Salvatore, a me non mi risulta, ma io sono scettico in queste cose. Mi sto anche preoccupando perché ogni tanto ne sento una, io non mi sto aggiornando a chi non mi ha futtinuta, io sono di qui agli amatori, fai da te, no? Che ho la patente, la ricetta con la detenzione delle radio e basta, poi non mi ha futtinuta più nulla. Faccio le nuove, mi seguo la mia documentazione, poi di quello che fanno gli altri, poco mi riguarda, però sto iniziando a preoccuparmi perché già da quello che ha detto Massimiliano, luogo di stazione per la 27, adesso addirittura l'hanno annullato ai radioamatori, ma non mi risulta, va. Sinceramente parlando non mi risulta. Vedrò di documentarmi che ore sono, ecco le 9 che c'è Andrea, chiamo Andrea a casa e poi ti faccio sapere, ma noi come sezione ARI e soprattutto come gestione in comitato regionale con noi radioamatori di Sassari siamo abbastanza informati quando c'è qualche modifica sulla gazzetta ufficiale, quindi io non so niente. Se poi l'ha detto qualche radioamatore vuol dire che è così, però mi devo documentare per dirti sì o no. Per il momento io ti dico che non sono al corrente di niente, non mi ha informato nessuno, il mio log è aggiornato all'ultimo questionario che ho fatto in 2 metri, in 40 metri, ma io ce l'ho al computer, quindi log appena, io non li ho più, ho quello che praticamente c'hai tu, quindi lo aggiorno ogni qualora io faccio un questionario, clicco nominativo, va in aggiornamento automatico, data, ora, QTC, UTC, tutto quello che deve scrivere lo scrive in automatico, quindi è aggiornato esattamente al 10 giorni fa. Quindi continuo a aggiornarlo ogni volta che io trasmetto. Poi se non devo più aggiornarlo, basta che me lo dicano, ma me lo mettono per iscritto, io non ho problemi. No, io comunque me lo sto sempre continuando a farle, tanto c'ho il PC attaccato alla radio, per cui si prende la frequenza e track, mi registro direttamente illuminativo. Mi ha lasciato un pochettino perplesso, però ho detto, nel volare continuo intanto a registrare, anche per me, proprio per vedere chi sono i corrispondenti. E in ogni caso stavo pensando di documentarmi adeguatamente, adesso che mi è venuto in mente, prima che mi passasse dalla testa, se l'ho voluto chiedere. Ok, va bene, grazie della notte, mi hanno chiamato per la cena. Allora ci sentiamo più tardi tutti quanti? Non lo so, io sono qua. Ancora qua non è pronta la cena, quindi io sono qua già nei ripeti. Anch'io ci sono, ciao Salvatore, buona carica, quando la fai? E noi siamo qua, io lo stesso, sono di qui, non c'è problema. Avanti a chi tocca. Perfetto, ok, grazie a tutti, allora, ciao, a dopo. Ciao, ciao, avanti Gro. Avanti. 1, 2, 3, prove tecniche di trasmissione. Dalla chiesa di Santa Maria stai parlando? Hola, c'era l'eco inserito, Claudio. Buonasera, signor Giove. Giove sarai tu che non te lo dice, hai capito però. Ok, sì, sto provando quell'apparecchio che avevo in macchina quando ero giovane l'anno scorso. Sarizia. Ma se tu stai scendendo nelle basse valli, perché apparecchio è questo che ci avevi? A me pare un baracchino con l'ecco di Cicalacci, invece Catrotti. Ah! Peccato in pieno! La modulazione dell'ecco oramai dopo 20 anni di CB, anzi dopo 40 di CB. E vedi la radiomatore, sono 60, va bene, 52, però ho iniziato col pannolino, quindi non lo posso permettere. Ma non è male così che tu, come hai inserito l'ecco è troppo cattedrale. Qual è? Quello di Antonio Diussi, quello? Allora, aspetta, ecco, che ho dato una cicchettata a togliere un po' di stazionarie, un po' il sì, gli era morto in mano. Cosa aveva il modulatore come quello che hai fatto a me? Bravo! Lo sapevo, c'era sempre quel difetto per gli apparecchi. Allora, il modulatore è debole, se tu ci attacchi i microfoni amplificati prima o poi ti futti. Bravo! Ah, aspetta, ci ho accesso il link nazionale, aspetta. Ecco, silenzio d'oro. Sì, hanno proprio quel problema questa serie. Ehi! Quando me li portava a frusta nera, me ne portava a ceste, quelle del pane, 20 pezzi dentro 18, e allora se ce n'erano tantissimi e se ne cambiava veramente tanto. Sai perché? Perché su questi apparati, oltre che fare da modulatore, fa da regolatore di tensione e diciamo che sono sottodimensionati. Diciamo qua, se vuoi risolvere per sempre devi mettere un EC 37. Se metti un EC 37 anziché 60 watt di dissipazione massima, 100 watt non saltano più, però è una modifica. Se metti l'originale durano 1, 2, 3, 4 anni, dipende da quanto tiri l'osso del collo al microfono amplificato. E allora è saltato anche il mio. Ma nessuno ne aveva, In internet ho fatto in questi giorni una decina di ordini, non ne aveva nessuno. Me l'ha tolto da sotto i cosi Melchioni, me l'ha procurato uno Melchioni Elettronica. Non riuscivo a... Voglio li ho terminati, ne avevo veramente tanti quando ne facevo accesse tutti i giorni, ma finito le provviste. E allora grazie, l'anno si è partito lo stesso. Io ce l'avevo collegato al telep3 con microfono micidiale e non va più, non so la portata, è così, evito. Bravo. Ma devi andare che mi prenderò un tester, vai sui finali RF e i controlli, se anziché 8,7 volte ci sono, perché se accende la spia, sono due difetti differenti, se accende la spia può essere il modulatore, se quando schiacci il microfono ti si accende la spia di trasmissione può essere quello, il modulatore e il regolatore di tensione, se non cambia la spia è un altro che salta, che serve il transistor di commutazione. È qualcosa è partito, perché la spia del Serenta funziona del microfono, poi c'è l'affare del modulometro, sempre il microfono a sale, però non muove lo smitter, sento il relay che aggancia ma non sale, non esce di PDT, capito? Si sente basso, basso, basso in cuffie, quindi sicuramente è partito qualcosa. Sono molto delicati, infatti l'ho spento, l'ho messo a parte. Quando se tu ne hai di questi cosi te lo passo, se no rimane lì. È da controllare per vedere, bisogna aprire, darci due colpi di testa e andare a vedere le tensioni per capire se è un problema di commutazione oppure se è saltato anche lì il modulatore. Molti di questi telai gli hanno messo 100 nomi, ma di questi telai che usa il Galaxy è pieno i baracchini. Capito, fanno doppio lavoro, stabilizzatore tensione e modulatore. È stato un po' sottodimensionato anche perché queste serie, lo sai, è 5 watt, è 10, è 20, è 30, è 40, è 50 watt, alla fine ci lasciano la pelliccia. Ma il veicolare, Vittorio, non è base, è un Galaxy Uranus del 97, è praticamente quello che aveva comprato Pietro Braccio di Ferro, e gli ho comprato tutta la stazione io perché Pietro l'ha comprato nel 96, nel 97 è morto, e l'ha messo la scatola, io l'ho acceso, e primo momento è andato benissimo, poi gli ho attaccato un tane più 3, ha funzionato una volta, due volte, tre volte, la terza volta sei smolti in algherese, capito? Sei smolti, proprio non sale il PTT, non esce, e infatti sicuramente ci sono, è un po', è da controllare. Poi se c'è anche qualche falso contatto, come era sempre fermo, non lo so, comunque, appena due minuti te lo passo e ti diverti. Non ci sono problemi, tanto è un baracchino che ho preso assieme ad altre cose, eccetera. Avanti, già. Ehi, non sapevo nulla, quanto è successo questa cosa? Ah, l'altro giorno, l'ultima volta che te l'ho fatto sentire, l'ho spento, poi l'ho riacceso per usare un pochino, così giusto quando uso i baracchini a commutare a fare, e ho schiacciato la portata, no, non vedevo lo smettere a salire, le ho dato un colpo per vedere se, come ho fatto l'altra volta che c'era la lampadina spenta e poi si sono accese perché era da tanto fermo, e niente, alla fine l'ho preso e l'ho staccato. Adesso sentendo a Vittorio ho capito che il tunnel più 3 ha fatto danno, capito? Quello che ha fatto sempre lavorare i tecnici. Come va come modulazione? Ha il microfonino suo e non è amplificato qua. Io non so se lo usi, Antonello, l'amplificato, ma me l'ha portato con questo microfono. Dovrebbe avere il 100% di modulazione. Capisco che le rare volte che ascolto sono tutti con 150% di modulazione, con tutti la LC aperto del tutto in maniera che non intervenga e quindi sento modulazioni tipo poco, anzi chi ha salutato non riuscivo a capirlo io qua, era talmente distorto che ho faticato a capire, stava salutando e andando via. Quello lì era Salvatore, GTX, nuovo radioattore, essendo GTX. No, io sto andando con 950 ho vinto quello IAS. Il microfono è l'MD100, non è neanche l'MG60, ma ho fatto dei settaggi per la M e funziona bene. Non lo so, io qualche volta l'ho sentito, no, già, col Galaxy e il, cosa c'ha, l'MB5. Anche tu l'hai bruciato comunque sul microfono, mi già. No, io l'ho bruciato col Turner, mi pare. Ho attaccato il Turner e mi era partito. E vabbè. Ma dice Vito che aprendo un po' di più la LC non dovrebbe rompere le scarpe. Ma lì gli stai tirando il collo, è come un motore di macchina, no? A massimo giri, a 7.000, 6.500 giri ti dà 100 cavalli. È normale che se tu gli tiri ancora il collo per dartene 120 cavalli, cioè stai rischiando, casomai ti va bene, però stai sempre portando al limite tutto il discorso. Cioè io parlo, faccio un discorso da tecnico, quando io vado a vedere questo transistor che devo cambiare, vedo con che tensione è alimentato, con quanti ampere viene fatto lavorare, e poi vado a vedere le caratteristiche sul datasheet, vedo che è fatto lavorare al limite, su questo esempio, sono già al limite. Cioè, lavorando normalmente con una modulazione, con microfono normale, anche col mic gain al 60-70%, il transistor deve fare dal regolatore in tensione per tutto lo chassis, deve fare il modulatore, cioè è già tirato di collo, poi cominci a aumentare ancora la percentuale di modulazione, al limite fai passaggi come Falcone, ogni volta c'hai l'apparecchio davanti. Ma è bellissima la modulazione, anche col microfono normale rende bene. Se poi provi ad attaccare l'eco, vabbè, quello lì non ce l'ha, però io ho un praticamente un regolatore per l'eco che lo puoi regolare come vuoi. C'è un po' tensiometro dietro e lo rego. Sì, sì, questi ce l'hanno fisso, eccolo qua, 1, 2, 3, io potrei accendere un apparecchio e riascoltarlo, ma non è un proprio, è un periodo, ero con una lombosciatalgia, 3 giorni, sembravo di stavo camminando più curvo di una parola, tempo male, va bene, a te qua, dai, che adesso ne sbullono tutto e vado a dare una mano a preparare la cena, se no poi tocca a bussare casa, scrocco. Guarda, Edgar, c'è una bellissima radio, mi piace tantissimo, dici tu, ma c'è questo ecco che tu fa cagare, sei troppo cattedrale, boh, non riesco a, non mi piace, è preferibile proprio come ce l'avevi poco fa, chiuso, c'è una bellissima modulazione, no già? Già. Adesso te lo faccio sentire, io con l'ecco suo, con l'ecco del Galaxy e questo qui chiuso, questo l'ho chiuso, vero? E io. Qua, questo è l'eco, ecco suo, uno, due, tre, quattro, come va? Meglio di quello, più corposa, è molto rimbombante anche quella, però è molto meglio di quello che sta usando Vittorio. Ok, questo qui c'è il potenziometro, io lo regolavo la musica, lo regolavo in questa maniera qua. Ma si può usare anche il microfono normale, caro, perché va molto bene il microfono normale. Come l'hai diminuito sembravi proprio dietro alla sacrestia cercando gli osti. È un eco molto cattedrale, peccato perché è veramente una bellissima radio. Guarda, ho dato a Gianni quella camera eco della ZG a Luigi, me l'ha fatta sentire, sembra che sia un ancora molto modificato, lui non ci credeva, ma sai quanto esce bene. Abbiamo sentito, sì, infatti pensavo che si prendesse in giro. No, no, io non parlo di radio su Busidio, cioè. Ho trovato dentro la scatola assieme al baracchino e l'amplificatore che ho preso da Pietro Braccio di Ferro. Era tutta piena di polvere, l'ho pulita, nuova, nuova, nuova. L'ho attaccata e funzionava, te l'ho fatta sentire. Te l'ho mandata a Luigi. Addirittura l'ha aperta, ha spruzzato il CRC, l'antiossidante perché era tutta bloccata, ecco. Cazzo me l'ha fatta sentire, ho detto, ma anche io mi stai prendendo. No, no, è la scatola ecco che mi hai mandato tu. Ma sai quanto esce bene? Sì, sì, io l'ho sentita che andava molto bene. Ne ho sentito poche di camere ecco così. Ma io lo so, c'è una modulazione micidiale. Quindi la portavo proprio benissimo. Luigi ancora meglio di me, bella corposa la modulazione, proprio con questa ripetizione giusta, fatta veramente bene. A volte vedi, e quella aperta Luigi, non è stata modificata, è originale quella camera, ecco, capite? E poi la si sia riuscita bene, tante volte si indovinano le cose, escono bene. Vittorio. Ma tu lo stai usando un Galaxy? Quel Galaxy era... E io non è che ho l'orecchio qua come Claudio, ma è un'impressione un po' meno cristallina, un po' meno limpida della solita. Questa è un pochino più, insomma, c'è i finali che tendono a lavorare più in classe C che in classe AB2. Che apparecchio è? Il mio è un Galaxy, però ecco, non è del Galaxy, è del microfono. Togliglielo. Così a zero, qua, così gli ho tolto tutto. Abbassa un po' la voce. Cappa, guarda. Aumenta un po' la voce. 1, 2, 3, avanti. Adesso ti sento limpido, pulito, chiaro, veramente ineccepibile, cappa. Quello lì era, l'altro era l'eco del microfono, che io lo uso sempre così, lo uso sempre con l'eco, e la ripetizione lui ha 3, 4, questa è la mia regolazione. Sì, no, ma ce l'avevi regolato, adesso sì, adesso è più limpida la modulazione, almeno ascoltando con questa radio, poi casomai sappiamo benissimo la storia della larghezza, delle medie frequenze, da un apparecchio all'altro cambia completamente, uno ti sente perfetto e l'altro ti sente distorto, ma se uno esce così con una larghezza di banda abbastanza contenuta, esce pulito, cristallino, se non tutti, il 99% ti sentono bene, insomma. No, ma il Galaxy è un bel apparecchio, a me è sempre piaciuto, e ti dico la verità, mi è sempre piaciuto come estetica, proprio quello che si ti presenta avanti. A me piace anche vederli gli apparecchi con una mia, diciamo, ottica. Se non mi piacciono, magari può uscire forte quello che vuoi, ma se non mi piace l'apparecchio non mi piace pure. Ma è giusto così, cioè è un hobby e deve piacere, non dirmelo a me, tra elicotteri, aeroplani e queste cose, metti il pezzo che più ti piace, che va bene, e poi al limite costa 10 volte tanto un altro, ma è un discorso, è un hobby, sull'hobby non bisogna guardare a spese, bisogna soddisfare le proprie esigenze, le proprie voglie, se no, quando è possibile naturalmente. Ah beh, certo. Comunque anche quello degli elicotteri l'ho avuto e adesso ho un po' mollato, ma mi stava prendendo male veramente, mi sono fatto arrivare l'angusta dei carabinieri, cazzo, era troppo bello, frabbinato. Quando fai un crash con un elicottero è un po' come quando ti sbatti con la moto la macchina, sono danni non indifferenti, tutto lì è il problema, sono danni, e poi tutto il tempo a lavorarci, a rimettere tutto, a calibrare. È un casino, poi l'elicottero in particolar modo, diciamo, deve avere quella piombatura, perché sennò non funziona bene, non vola come deve volare, cioè non è ben equilibrato. Devi controllare quelli completi, sono, lascia quelli con le eliche controrotanti, sono, li sanno usare tutti, insomma, quasi tutti, mentre quelli normali devi, cioè sei canali da gestire contemporaneamente, insomma devi essere quasi un bravo pianista. È che quando col pianoforte sbagli non succede niente, a parte che ti dicono che hai staccato, ma quando sbagli con quelli sono susse al portafoglio. No, ma tu dove ti servi? Da quello di Sassari o da internet? Dai, da quello di Sassari sono stato 5 volte in contatto, se non ha cambiato politica, adesso io ti parlo di anni addietro, appena aveva aperto, se non ha cambiato politica a Cinerbola. Ti va di magari entrare. Sì. Capito? E ce n'è, sì, dice Jonathan, ce n'è tanti a prezzi veramente competitivi a livello europeo, eh? Sì, anche vale quelli lì. C'è quello delle vetrine, non mi punto il clima, cosa del genere. Ce ne sono tanti. Bisogna avere i soldi. Poi anche per i pezzi, io guarda, pezzi di ricambio ne ho tanti perché i ricotti li avrò distrutto 3. Sì, piccino può prendere, no, tutto, quello grosso da 1,20 m, con l'elicchio da 1,20 m ho tutto, elicchio al carbonio, tutto cuscinettato, a 47 cuscinetti, e le pile sono il motore senza spazzole, un brushless, e cosa volevo dirti, sì, avevo preso le batterie anziché quelle al nickel metal idrato, usavo quelle polimeri di litio, molto più leggere e potentissime, quindi ho vissuto anche un quarto d'ora facendo evoluzioni eccetera. Insomma, sì, ultimamente è un po' trascurato e insomma, cioè, il lavoro ci ha portato via troppo tempo e adesso vediamo col bel tempo, dovrei montare anche qualche antenna sul tetto se ci riesco, che sì, ce le ho di fronte qua facendo vetrina. E poi mi prendono in giro che dicono che ho le antenne sotto il letto, perché è vero, ne ho comprate tante ma non ho montato praticamente niente. Va bene, scappo, ciao Gianni, ciao Claudio, saluto tutti, Vittorio Giove, query. Ma ciao Vittorio, ci sentiamo, andiamo, va. Quindi Antonello gli possiamo dire che è pronto, senti. Sì. L'ho portato perché l'ho provato su carico fittizio, ho ricontrollato gli allineamenti, è stato bravo, non ha smanettato niente, quindi quando lo sento gli faccio i complimenti, perché molti CB non resistono alla foga del cacciavite selvaggio. Poi Antonello non è di quelli, no. Vabbè, dai Vittorio, ci sentiamo, buona cena quando la fai e buon tutto, avanti. Ciao Vittorio, ciao, alle prossime, siamo sempre qua quando vuoi, entrare a fare a dare due colpi, siamo sempre qua, buona cena, buon tutto, salutami a Laura. Ciao a tutti. Vabbè, è interessante che si possa riparare, perché è brutto quando ti si faccia, non puoi, non trovi pezzi, non trovi qua, non trovi là, e quando sono pezzi, ma apparecchi così, anziani, è difficile trovare i pezzi. No, ma questo lo sapevo io che era così, perché mi è già successo in un'altra radio che era partito il modulatore, ma questo dobbiamo vedere se il modulatore che cos'è, ma comunque il cambio più 3 su radio del genere fa danno, capito? Ha una spinta micidiale, io l'ho visto la prima volta, dove l'ho acceso, potevo farlo andare magari col microfono normale, invece di attaccato direttamente al cambio più 3 perché la connessione è uguale, quindi ha modulato per un po' e poi gli ho attaccato sta delta che è ancora più spinto come tonalità acuta, il tame più 2 non se ne parli e adesso non so se l'ha crepato il più 2 o il più 3, comunque un microfono da tavolo ha fatto danno, va. No, ma gliel'ho messo a posto, se non l'ha affrontato, non so, però 2 minuti glielo passo a Vittorio e da uno sguardo non faccio mettere a posto, anche perché quello lì io l'ho aperto dentro, c'è la scheda del doppio modulatore e il trasformatore del coso, cioè il trasformatorino del doppio modulatore con la scheda già attaccata, capite, già tutto predisposto, quindi io non me ne accorto, me l'ha detto Luigi, bisogna, c'è un pulsantino che si chiama, non c'è scritto, ecco, c'è un altro coso che comunque funziona molto bene, tipo il coso del magnum, capito? Ma io non sapevo, quindi non l'ho manco attivato, non sapevo manco che apparisse il frequentimetro, come mi hai detto tu. Faccio, è tutto da esplorare, adesso lo facciamo mettere a posto e poi lo facciamo viaggiare, perché quello lì c'ha 15 watt in AM regolabili, praticamente sempre in digitale, bassa e alta, e 25 watt in SSB, sempre bassa e alta, capito? Quindi è una bellissima radio. Poi non ha bande, e praticamente con la monopola, tu lo accendi, lui ci mette a 25 MHz e poi ci sono gli Hz, i kHz e i MHz dove tu te li posti e vai fino a 32, proprio sembra un baracchino continuo. È molto interessante, io l'ho provato in 10 mesi, caspita, con l'amplificatore che sto riparando da Roberto, quello perché c'ha 20 watt di ingresso, quello là, e dai 15 watt anche 25 li mantiene bene, in 10 mesi è una bomba. Allora, ci siamo già sentiti, è una tronzata, come ha detto Vannino, c'è dei transistor che io non ho visto sotto scoppiati, un'altra resistenza e poi c'è un diodo e poi le mette le valvole nuove. Ma detto che con l'amplificatore è un kilowatt 2, capito? Praticamente circa 700 watt in AM, AM FM è quasi se di là, dipende con che radio li fai andare, più di un kilowatt in SSB. Sta bene, Baribuch. Ehi, vediamo un po', sto provando l'LMS 200, sta uscendo, sì? Appa. La bella, quella ce l'ho anche io, MS200 col famoso microfono, glorioso microfono della ZG modificato con capsula Electret Philips. A me di quell'apparato non mi piace solo il colore, perché io odio il marrone, poi tutto il resto mi piace. Ho fatto furia però, eh. Questa è quella che facevamo i combattimenti, torri di buzzi. Cappa, è lui. Per poco mi lamento, sto cacchio di MS200, a volte con quell'altro che ci aveva, io lo stesso con la KB23 che ce l'ho ancora qua, due valvole abbiamo crepato, Gianni era più lungo, due valvole, con questo delinquente, lui e Walter, tutta la sera stavamo a torre di buzzi, poi a volte io lo sentivo, poi lo sentivo più forte Vittorio, e Walter stava veramente un chitarra cubica, col parete mi diceva, vedo quella cubica, noi per il verticale arrivavamo più forti di lui. In certe zone arrivava molto più forte lui, e in altre zone, come sempre. Sì, ma sì, già ci siamo divertiti da giovani. Registrato il break. Mi manda molti saluti, tanti saluti che poi un mio collega, Carlo Cuis, che allora era CB, poi è diventato radioamatore, e c'è questa licenza, questa patente è sempre scaduta. Ma stanno fregando la rinnovi, sì, guarda, devo rinnovare, adesso anche Raffaele, la devo rinnovare, non ha mai rinnovato. E abita Buzzi, infatti è molto amico lui di questo Tore, adesso è, non so se è morto, ma è abbastanza anziano. Avanti, Becchi. Buonasera Claudio, e buonasera anche a te, Vittorio, e a tutti quanti gli altri amici. Ciao. Io non so come mi sta ascoltando, perché sto usando l'LMS200 depotenziato, diciamo che ha 2 watt, quando parlo sale a 4, così vi ho aumentato i famosi picchi positivi. Era come si diceva allora, Claudio, anche dalla macchina, la radio alla Vittorio Gioffre. Ma questo è proprio quella che usavi tu. Kappa, questo è un microfono della ZG modificato, abbiamo cambiato la capsula, è una capsula della Philips, allora lavoravo lì alla Philips, l'avevo depotenziato e gli avevo messo dentro un amplificatorino della ZG che praticamente quando tiene la portante esce 2 watt e poi quando parli sale a qualche watt in più, insomma, anziché uscire con 5 watt l'avevo depotenziato a 1 watt, 2 watt, quando parlo mi dava i picchi positivi, perché nell'MS200 per sua caratteristica quando parlavi tornava indietro lo smitter. È vero, è vero. Avanti break. Buonasera, Antonio Mestal da questa parte mobile. Ciao Vittorio, ben sentito. Ti ascolto bene, sono immobile K. Ciao Antonio, ti sento bene anch'io. Va bene, scappo, ciao Antonio, ciao Gianni, ciao Claudio. Sono contento perché almeno non vi voglio dire stupidaggi, almeno 10-12 anni che non attaccavo questo apparato. E che cosa stai usando? Stai uscendo bene, Vittorio? LMS 200, microfono ZG MBTU4 modificato. 9.50, sì. Buonasera Claudio, mi stavo ascoltando poco fa, adesso mi sono messo in movimento verso Sassari K. Ok, ciao di nuovo Vittorio, non c'è problema, stai andando benissimo. Ma io sto andando con l'FT950 o alto, e il microfono l'MD100 sempre della IAS. Sarà diversa la modulazione, ma io non ho problemi perché le mie corde vocali colpiscono sempre. Vabbè, sembra una stazione che sia qui dentro il 960, segnale la radio, cosa ti posso dire, come l'FM, come ti ascolto dall'altra parte, no? Non ci sono problemi. C'era un 7 un po' sbagliato e questo 6950 come tipo il Mark 5. C'è l'equalizzatore, compressore, processore, quindi sono andato a vedere i miei parametri, erano un po' tutti spostati. Li ho regolati, ho tirato fuori questa modulazione, giusto così per usarla, il 27, visto che lo uso poco in HF, lo commutiamo ogni tanto anche il 27. Signori, a me mi hanno chiamato a cena, quindi i più cordiali saluti a tutti, ciao Antonio Metal, Antonio Bombolo, di nuovo Vittorio, cordialità anche a te, saluti. Gianni Doppio Rum e chiunque fosse in ascolto, mi allontano per la cena, se ci siete ci sentiamo dopo. A te Gianni Doppio Rum. Ciao Claudio, buonanotte e buona carica, se poi voi siamo qua. Avanti Antonio Metal e poi fai girare. Ciao Gianni, ben sentito. Ciao Claudio, di qua mi stai trascinando. Ciao Claudio. Stavamo da dopo, dove risentiamo? Forse vi siete sovrammodulati, già Antonio ti ha chiesto qualcosa. No, io non sto trascinando nessuno, è che attiro, ho capito. No, ma con Vittorio ci sentiamo spesso qua. Ogni tanto entra a fare qualche prova, Anto, capito? Su qualche riparazione, qualche baracchino che vedrà qualche amico qui, ogni tanto già entra. Quello che tra poco è Walter, ma gli altri già entrano un po' tutti, dai. Gianni, guarda che Antonio ti ha chiesto qualcosa, avete parlato in due. Avanti. Gianni, ti senti? Io ti sento. Si è visto della roba del popolare 1. Ciao. Stanno facendo questa risata, boh. Cosa? Stanno mettendo una risata. Non la si. No. Siamo in corsa portante. Vabbè, ti devo essere qua vicino perché se tu non la senti, boh. Anche Marco Scorpio qualche volta entra, no? Marco, sì. No, non lo sento io. Sento qualcosa ma a livello proprio basso, invece non vedo nel volto. Qua Antonio è 9.30, quindi no, non ho problemi. Sì, anche Marco entra però da fuori, intanto dalla macchina si fa sentire, dai. Ah, fa piacere Antonio, è un discorso che abbiamo già fatto, capito? La radio è bella quando è fatta, no? Stare sempre da una parte, è bello anche che un radioamatore o più radioamatori ogni tanto si ricordino che siamo nati tutti qua e quindi è giusto che entriamo a salutare gli amici, a fare due chiacchiere senza creare nessun problema. È che purtroppo qualcuno la pensa diversamente e quindi succedono sempre, sai, queste cose. Vabbè, cena per me, vi saluto, al più tardi, Gianni Doppio Rum, riprendi, fai girare, QRT per me, ciao a tu. scappa la libertà di parola e di azione, quindi ognuno fa quello che crede, non c'è problema. Te l'appoggio qua, nel senso che uno se ama la radio, se è un radioamatore, è amatore di tutti i tipi di frequenze, non solo di uno. Io la vedo così, perché io a me piace ascoltare tutto e di più. Avanti, Anto. Ciao Clara, io sto scendendo a Sennori già, capito? Io vivo tra i tre Sennori, quindi diciamo che sto sempre in movimento, capito? Finita. A Bisessi. Non va, ragazzi. Non mi sono più marrisata che ti va. Attento Gianni, il più rum. Sta di minchia, coglione. Io, per carità di Dio, Gusuga ha rotto il capo da ieri e non può sempre con quelli bassi se la prendo. Avanti, Anto, vediamo un po' se ti ascolto. Io non sentivo niente, capito? Sono... nella... c'è uno che mette la risata quando parli tu, una risata registrata, così capito? Gianni, ma stavo dicendo, se hai visto quella roba del motore ad uno? Ho visto tutto, vai. E allora iscriviti al corso. E poi già ci vediamo, dai. Che moto hai tu? Zucchi. Vustrom, cosa c'hai? No, lo scooterone, c'è il Bug, ma in 400. Ho capito, io c'ho il Black Widow 750, 7,5 custom. Cappa. E a me me lo volevo lavare un custom in cambio della mia, non ho preso. La mia è nuova, 2007, però è tenuta maniacalmente. E la mia è 2002, ma è nuova anche la mia. E praticamente io la tengo bene, la moto, ma la uso poco, non è che... ieri ero in giro, per esempio, ieri sera, ma a me piace. Allora io avevo lo scooter. Allora io inizialmente avevo l'Honda 504, poi ho avuto il Dominator Enduro. Poi il Vespone ce l'ho avuto sempre, ce l'ho ancora. Poi venduto tutto, mi sono preso uno scooterone. Poi mi sono tuffato, me lo sono venduto e mi sono ricomprato la moto sciolta. Vabbè. No, io ho avuto sempre, diciamo, moto più piccole di cilindrata. Ho avuto la Vespa, sì, ho avuto l'SR. Aprilia, ho avuto il Burgman 150, poi ho preso il 400, dopo 150, e ho avuto anche il chimico, moto vea, così non ho giù mai avuto. Ho capito. Ma la tua cammina più della mia, se ti fidi. Ne ho avuto un bel po' di moto, sia di moto che di macchina. Una gran pallina. Perché è affidabile, la Honda è bicilindrica, un motore che non lo finisci mai. Capito? C'è questo ridacchione che sta arrivando sempre. Quando parli tu non ti capisco perché ti copro. Lascialo fare, qualcuno che mi conosce, capito? Sarà Walter, no? Walter no, però non è faro così. Proviamo l'effetto. Il ridacchione quanto ce l'hai di segnale? In zona? Ecco. Sì, vabbè. Tu dove abiti? Già. Non per il coglione. Ecco. Chi è il Greco? Antico, buonasera. La IS0 puzza. Buonasera, IS0. buonasera dalla città di Forro. Buonasera a tutti, la strada di Castro. Una chiamata. Ok, va bene, accolta la chiamata, proviamo nuovamente con la buonasera dal nord Sardegna, Italia, che ti ascolta. Sandro, cosa facciamo? Due ruote qua, ce n'è già una mi di ruota. Gianni, non stavamo trovando nessuno, chiedo scusa, avanti. Perché c'è questo imbecille che quando stiamo parlando me ne si mette a ridere, fa questa risata e ci incontra. Comunque buonasera, cordialità a te e anche all'amico di Sorso. Avanti, avanti, sono in compagnia di Antonio di Ittili e di un altro amico, avanti. Ok. Ok, ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato, saluto anche l'amico Nediti, se riesce a tirarmi fuori, poi c'era l'amico di Sorso, mi sembra Antonio Giuseppe, avanti Sorso. Buonasera a tutti, sono stato a fare il mio chiacchieramento, poi io chiedo scusa che hanno detto lui, perché io ho pregato, però sentivo a Gianni, però non sentivo altra gente, quindi chiedo scusa. Buonasera a tutti, a te Gianni, ciao Sandro, a te Gianni. Non c'è problema, dai, non è quello lì, è il fatto che c'è questo qua che sta rompendo le scatole, facendo la risatia. Oi, oi, si arrucci ma che si fa di vita giù io. No Gianni, non devi parlare così Gianni, lascialo divertire, dai, lascialo divertire, evidentemente non sa cosa fare, dai. Sa cosa fare quello che ha paura. Sandro. Eia, avanti, ciao Claudio, dimmi. Effettino 950. Cosa ti sembra? Effettino 950 cosa mi sembra? Ma guarda, se vuoi un parere su quella radio lì non me lo devi neanche chiedere. No, io lo sto usando in AM, cosa che prima non ci sono mai riuscito, siccome c'era un passaggio da fare sull'equalizzazione, sono riuscito a trovarla e adesso la sto usando. C'è molta differenza da una parte all'altra. Un attimino al telefono. Ok. Gianni, adesso mi dovresti sentire bene, là. A voglia. Dove sei? Vicino alla motorizzazione. Adesso giro dalla brettella. Capito. Poi dovrei sentire l'amico di Sorso tra un po' anche, capo. Mandami da tutto, Gianni. Dove ti sta dirigendo adesso? A Sennori, Sierra Ecolinsi. Cappa. Sennori stai andando. Ho capito. Vabbè, allora. Che ci sentiamo bene, non ho problema. Non ho nessun problema, cambio basso. Quindi se vieni il 13 c'è un bel di roba, hai visto l'organizzazione? Oh Gianni, sei avanti. Ma perché sto scendo così? Stavo mettendo a portata a destra a manca, mi sto già scocciando. Quando iniziano così è brutto, No, ma non lasci peso Gianni, lascia perdere. Se passiamo tranquillamente non lasci peso. Ascolta, ma perché sta uscendo in questo modo? Attenzione Sandro, alla città di Ferro si ascolti. Eia, capo, buonasera dalla città di Ferro. E Antonio da questa parte, mobile, dai. Già ti ascolto bene, capo. Capanto, ti ascolto un po' vai vieni, logicamente sei in movimento in VM. Ok, c'era anche Antonio Giuseppe, tu? Perché state parlando uno sopra l'altro, io non capisco. Mi stanno portantando, Ecla. Mandami la chiusa di chiusa fa. Ma dove è questa portante? C'era uno che rideva quando parlavo io, chissà chi è, qualcuno che mi conosce, capito? Belluacco. E senza problemi, Sandro. Non lo so, vabbè, io vado a mangiare, comunque c'è un casino di Gesù Cristo, state tutti parlando uno sopra l'altro. Va bene, dai, vi saluto, fate quello che dovete fare e ci sentiamo alle prossime, a me quando è burottono poco mi piace. Comunque Sandro, ti stavo dicendo, sto usando l'FT950 con l'MD100, che differenza noti da questa radio a quella che uso normalmente, 140, 440, 850? Allora, a parte diciamo l'affetto personale che ho verso quell'apparato, un casino, voglia, lo sai benissimo l'affetto che ho su quell'apparato lì, ti dico soltanto che sei come sei qua vicino a me, non ce n'è altra modulazione come questa. Ok, nella stessa cosa ti ascolto io, c'è la ricezione che c'è questa radio, non pensavo fosse così in AM perché non avevo trovato ancora il set delle qualizzazioni giuste, adesso leggendo un po' il manuale sono andato a capire qual era il problema. È praticamente lo spostamento del microfono perché c'ha quei tre tastini che vanno portati tutte e tre a zero, mentre portandoli tutte e tre in avanti vanno, va bene per la banda laterale. Ok, va bene, tu quasi non ti dico niente, guarda, segnale 920 sul digitale, la modulazione è bellissima, molto molto bella. Divertitevi, quando c'è un po' più di calma ci sentiamo, dai, ciao Antonio Metal, Gianni Doppio Room, Antonio Giuseppe da Sorso, Antonio Bombolo, a te Sandro e chiunque fosse qua sul canale 10, c'è troppo casino. Io la portante non la sento, ma a quanto pare nella zona del monte sta facendo strage, quindi buon divertimento a tutti, alle prossime, ciao. Ok. Ok, dai, approfitto che anche io devo andare a fare carica. Claudio, ti dico soltanto che se ne frega, questa modulazione qua se ne frega del 140, del Galas, del 440, dell'850. Veramente, veramente, guarda, sembri qua, non ti dico altro. Comunque, dai, mi sento che devo fare carica, salutoni circolari a tutti. Grazie anche a te, a dopo, dai Antonio Metal, a te il microfono se riesci a trasmettere con Gianni, con gli amici, ma a me quando c'è casino così che i corrispondenti si lamentano non mi va, dai, ho finito di incazzarmi, quindi preferisco abbassare il volume e fare altro. Ci sentiamo, un abbraccio a tutti, ciao ciao. Ciao Fla, ciao anche a te, ciao, avanti. Chi è che sta mettendo portante? Tu faedda, che intanto qua sei tranquillo. Lo so già, ragazzi, io non riesco a capire. Sono qua al chilometro da le luci gialle, come si dice. Ho capito, infatti ti sento che arrivi bene. Come esce questa radio? Vabbè. No, ma non riesco a capire che gusto io, se inizia così non entro più, Cioè guarda, io oggi sono entrato, voglio tranquillità, se vedo che iniziano a portantare, ciao. Gianni. Chiama, va. Ti chiama, la mamma rossa e come ti sento? Ma quando ti ha fatto? Sono solo la portante che sono di gioco, perché due che non sa cosa qua. Chi è l'amico Gian che ha chiamato? Io sono. E comunque qua la portante, perché io la devo un bel forte, qua la peloce. Si riesce a complicare per il culo, ma anche a campo di culo. E alla veloce, io alla Buttibuti la rilevavo tutto. Campa, sì sì, è in questa zona, lo posso confermare. Ma chi c'è? Sì sì, c'è... coso... Falconero, avanti Falcone. Oh, Gianni. Nara. Ma dai, non credo che sarebbe andata così, non riuscivo. Ma io non capisco che il gusto ci prenda la gente a rompere le scatole, se non è gana, è chiuso, è tutto tanto, e ti andi a fare questa cosa, dove stai a rompere il gatto e andate, boh. Comunque, senza mancare anche fare questa batteria, guardandolo... Tigre. Pensavo che abbia detto, ma probabilmente vabbè, tu l'hai ordinato dato forte di numero, quindi a me mi annulli. Però questa persona che è quella della contatta, ma ha fatto fare la regola della scuola un po' carino, no? Comunque lasciamo una cosa, che tu la passi, stanno tentando di coprirti che non ce la fa. Ma anche se per questo è un po' un cazzo, ma anche per il gruppo su è una cosa più importante di a me. Lo so, ma la fastidio, se non ha preso una decisione di passare 4 minuti in tranquillità, perché devi non aprire le scatole, boh? Vabbè, va, è sempre incantabile per i libri, meglio più che perché la torre che ha dietro, non mi do problemi, va bene, va. Ti lascio le sue battaglie, Gianni, tu la segnali, forse non mi... Ciao Gianni, magari giocando, non lo so, faccio un po' di televisione. Ciao Gianni, a tutti, buonasera a tutti che stanno ascoltando. Va bene, già ci sentiamo, là, stanno bene. Buon divertimento, buona visione. Quanti Antonio, dove sei arrivato? Sono a San Camomillo, ma l'amico di Sorso mi ascolta, o ha chiuso. Ehi, l'amico l'ho chiamato, l'amico di Sorso, buonasera, Marconello, sono chi sei? Antonio Metta, allora ci sono da poco fa in frequenza. Da Italy sto scendendo, capito? Adesso sono a San Camillo, nelle curve di San Camillo. Che cazzo, allora si è venuto a San Settori? Io sono vicino, ho la stazione anche a Settori, capito? Adesso se attacco da lì non porto tanto a nessuno, stai tranquillo. Aspetta queste cose qua, no, non devi mai provocare per questo queste cose qua, che sempre lì che ti ascolta, ma se sei ricerca di un cubiaca ti ho preso una roba, capito che hai Antonio Metta? Eia, ma dove abiti tu? Fuori, in campagna? Senti, mi faccio il pastore, capito, io sono un pastore, sono io. Ah, quella serie di zendi, che pastore non finisce i nomi. Dalle nostre parti ci sono, da qua di meno. Sì, vede che hanno più rupe quando viene al mio vile, ti do un pecore, tutte quante le formaggi che devo andare lì. Sì, già c'è uno che ha le pecore lì, vicino, si gira lì all'incrocio della Madonnina, verso le campagne, lì c'è uno che ha delle pecore, maiali, roba così, quindi qualcuno la c'è anche da fuori. Ah, ci sono, noi siamo verso i punti, con la zona lì c'è barra agricola, che li ha. Dove abiti tu, vicino alla fila lì? Secondo te io nel frequenza, che sono 40 anni, se vuoi dire dove abito, no? Perdona, va, non la casa. Sarebbe cosa che non mi costa lei a te, dire se tu sei lui, se non vado per io. Vabbè, ma Vannino lo conosci? Che è il cazzettino? Aspetta, la so io che ho 64 anni. Io sono amico di Vannino, va. Ma come ho 64 anni però? Vabbè, lui ne ha 52, quindi non è che sia un giovincello. Ma neanche io sono un giovincello. Via. Va bene. Magari ci siamo collegati, tanto tempo fa. Io sono 30 anni, poi sono 30, però diciamo che lavoro anche dalla campagna. Scusando l'amico Gianni. Guarda, ho iniziato nel 76, sono 54 anni, sbaglio più di conti. Se domani, domani, domani mattina vai al CAP, ci fa finire in quanti anni sono, no? Capito bene. Non è l'età che conta, sia di anni che in frequenza, conta sempre dialogare con tutti, anche se ci abbiamo sbagliato anticamente, non dobbiamo sbagliare adesso. C'è questo sempre addosso con la macchina, non riesco a capire io. Uno se mi vuole superare, mi superi addosso al cofano, Ma è allucinante lì. E tu frenare di colpo? Non però, adesso Sorso ce l'ho sotto tiro, sono davvitto, vai. Legato a priori. Quello lì, se si preoccupa un motivo, non la mia vista. Gianni, ancora saluti che te la metto per il fatto dei taurini, QRC. A te Gianni. Allora, io voglio rilanciare a chi deve riprendere, vediamo un po' se c'è qualcuno in bianco che riprenda. Però io sono stato lo stesso, tanti nell'appartamento dell'espressione della compagnia, io ho attaccato buonanotte, a te Gianni. Ciao a tutti, sentiamo, dai, le prossime, speriamo che siamo migliori, perché guarda che di solito sempre facciamo questo tranquilli, qualche volta che capita, ma meglio non provocare, non fare, inutile che tanto non si incazza. Siamo lì nella Bagnalora, avanti. Papà, ancora di nuovo la buonanotte, la prenderà con tutto dalla serata. Oh, Gianni. Sì. Praticamente, tu hai gli amici che pulire la portata di fine del dia, e quelle sono portate benigne. E sono anche le portate maligne. E sì, poi ti dico, zia, io di baro, bacio, la zia, naturalmente. Ehi, da qui stiamo via della vita, no? Cazzo, che anche se è stata giunta, ma va, ma su, lui, cazzo, per tutti i cazzati, io ti dico che non me la cavavamo da uno sicuro. Io si parlo solo così, a livello della buffonatura, ma quando si pone proprio in barro, quindi cazzo mi ha fatto incazzare, ma a me non mi va di più nulla, no? Dove tutte buonanotte, cosa devi fare? E vabbè, ma vedete, ci sono le portate benigne, le portate maligne, le maligne, non lo so, impiegato da uno dall'altro, va e metti, quelle sul tempo di cervello che viene manovrato dall'altro, ma è meglio questa, se le cose le portate non sono male, mai esistano. Se non la vedo a scala e io capisco, tra poco però che si trova tutto il tempo. Infatti, lasciami fare e basta, così va. Sono rimasto avanti. Allora, Antonio Rossa è stato stato effettivamente passato in quella città e si è arrivato per la sua. Sei già, ciao Antonio. Magà, e siamo rimasti io e tu e basta. Sì, Antonio Maria. Antonio Maria non c'è, è partito il culo della famiglia. Dimmi Gianni. Ah, giudice, siamo rimasti in due. Sì, ti devi andare a parlare la legale, tu la legale, va da là. Io sì. E come si vada? Blanchi. Vittorio non lo sai tu. La legale è rubato per qua. Rigardi è quello che salta la gamba, poi si danno i colpi di mano, si fa tipo un applauso così, va avanti, di tatto, e si fa, si alza la gamba. Rubato della legale, è rubato che cercava, come si chiama? Alfano con nome da Prada, questo Italia di qua qua, compreso ma. Ehi, se vuoi succedere, la legale, è un bello fare qua qua, si vada con un trucco della cavola, e mezzo avanti e la cavola in capo. C'è qualcuno che c'è da guardare nel mio piatto. Fagato. Sì, comunque io sono balli belli così. Che fanno divertire, sono male di gruppo. Oh, senti, ma che dici sono poi inviato, Gianni? Cosa momento? Hai detto qualche cosa che non ti ammettavi? Hai detto, ah, Giuseppe, che non ho parlato con lui. Ah, guarda, che a voi, quando c'è qualche segnale un po' più basso, se non riesci a parlare bene, questo non fai altro che andare per l'immaginazione, capito, mi ha? Sì, ma te hai detto a buffonetti, mi non piace il notte, c'è l'ufficio. Ehi, mamma, sarà, si sa che il suo figlio fa la piscina, non ti preoccupare, la sua mutarata, il 30 di uno, non va di oltre un qualcosa nel mezzo, la piscina, ma è un problema non per me, la sua mutarata, Gianni. Sì, no, ma non sta arrivando di battuta, perché tu hai detto che a Giuseppe l'ho rimbentito, fammi una domba di voce con te, un bel disegno è entrato quando vedi tu a giudizio, non mi manco da un bel che fa bizzarro, ti lamentavi, là, basta così. Giuseppe, c'era un periodo che usciva fortissimo, adesso esce forte, poi a volte gli manca la modulazione, un fischio, boh, e poi gli rendiamo i bussucci. Cosa vuoi far guardare, ma non puro è tutto tanto negli anni che dormiamo della frequenza, che ne siete a voce forte, a voce lati, ma tante problemi, non è che forse fuggi sempre da 40 anni nove vite, no, puro, ma o meglio o peggiore. Vabbè, questo sì. casino. Noi abbiamo conquistato il Brasile e tu sei perché la tratta lì. Prima per tutti i canali occupati, dice guarda, andiamo andare. Vabbè, vera 25 aprile, vera le casette in Canada, vera la boccia di leva, vera le cose. Tu mi sei fortemente i lunghi, parlo quasi lunghi. E per questo lo dice, no? Anzi, cosa dici? Sempre frequentati, giorno. Frequenza diversa, no? Ti ho dimenticato via Dante. No, io sono mai della più io. E che sia? Vabbè, non ricordi, io te le faccio, non ho mai di mangio compagno, no? E io? Io mangio Pazzino. Non mi dica se mai è frequenza, se non si viene dallo tuo a ieri. Ehi, fa cosa, Pazzino. Che si vuole se ci vuole? E non se ne vuole se ci vuole. Ah, no, io 52. 52 ore per una cattura che deve fare, tante più tante. Sai. Me ne mancavano i bovini, ne avevo fatto io a 30, adesso ne ho 32 anni di lavoro. Adesso bisogna avere, non riusciamo a fare ancora, perché il mio è un lavoro di chi bisanti, non è di zero. Tutti vengono in un risveglio e quindi la consenza di prestare un lavoro di vita che lo riescono tutti. Dobbiamo preoccupare solo quando c'è il lavoro, per vedere, ho bisogno di risveglio dove sono la chiama. Ma con un ricco che ti dica di contente di nato, ma c'è una chiama già, ad esempio il tuo amore o Gioia, capito mia? Devo preso via. Non sai cosa c'è, che non c'è tetta poi cominci già a sentire i dolori, fatti a uncino, come dico io quando vado dalla macchina, mi blocco tutto l'altro, e c'ho tutto un dolore. Cane, ma tu in questo periodo non andate in giro per i paesi a portare il taglio o qualcosa del genere? Io stavo i mobili, anche a Sosso venivo a Senno, stavo anche i mobili, sì. Era una macchina, ragazzi, c'era uno che era in giro per le paese. Il momento di piano non c'è che era in giro per le paese, però era tutto quello che era in giro per le paese. Allora, ti spiego. Quello di a me mi ha fregato il nome attivo, e io da un periodo che non stavo entrando. Ecco, su qui ha detto, ho sentito che c'era uno che si chiama doppio lungo e cosa, me lo posso mettere da dito a Mario Mao. E Mario Mao mi ha detto, buonanima, mi ha detto, già, così così. Guarda, mi ha avvisato che questo qua gli ha detto, guarda che c'è già doppio lungo. Non sto entrando in questo periodo, però doppio lungo c'è vecchio, già di vecchia data. Allora questo l'ha cambiato. Ciao, papà. Risolto il problema, le dici, ma le dico che avevo io, e quindi mi ha dato il risultato. Va bene, già, io mi sono tratto di risolto, e quindi se è possibile stanotte, altre cose più importanti mi attendo di stare in palazzina, già. La compagnia è quella che siamo io, due le rose, però non sono tratto di risolto. Buonasera a tutti, il buon proseguimento è questo, io mi sono ascolto, e faccio una nuova saluta. Ciao, Gianni, a domani. Ciao Falco, sentiamo, state bene, buonanotte, se vuoi risveglio per domani, ciao. Qualcuno? Anche qualcuno, è una banana. Mimmi, a Dumbo. E mangiareci, qualcuno è una banana. E allora, ho detto che c'è la roba di meglio da fare, per dai. Deve essere che sta facendo qualcosa di meglio di lui. Speriamo sia così. Allora già, tutto bene? Sì, oggi è stata una giornata un po' pesante, ma sempre soddisfacente, e con la voglia sempre soddisfacente. Oggi tutta roba pedale, vedi, per carità. Fino all'ultimo meno scritto là. Purtroppo sono giornate purtroppo così, che ce lo fa? Ci sento un attimo, così c'è un attimo che c'è meno lavoro, lì mi annoio, se c'è meno lavoro mi annoio, la verità, perché non ti passa mai il tempo, quando è poco travato. Sì, è vero, non ti passa mai il tempo. Se dopo uno è abituato a lavorare, ti piace, boh, dico, non, essere, non che ci sia così da crepare, però uno è via di mezzo. Quello sì, purtroppo quando ti caricano tutto addosso all'operaio poi diventa dura, dopo la giornata inizia a essere un po' dura, purtroppo è così. E poi io non sono mai stato in riesco, sono stato sempre solo, sono uscito, capito? In due, poche volte, proprio quando c'è una grossa necessità, ma se no... Fatto. Ma non c'è nessuno la notte, no? Allora, stavamo in tanti poco fa. Poi hanno cominciato a mettere questa risata, non so se ve l'ascolto. Hanno cominciato a mettere l'importante con la risata, e via. Muri un altro che tentava di mantenersi un importante, più bassa, lo ci facciamo anche sul litico. Però quella della risata disturbava molto perché mi tappava sia portatore sia Falcone passava e con Antonio di Ittiri mi tappava quasi tutto. Allora vicino a te sta risata come? Sì, poi è passato via la Budimudi, cosa come si chiama? Di Ittiri, che sta parlando verso Senno, gli ha detto che arrivava a 9.60 lì. Sì, c'è, pietà, allora è quella. E poi passava, non passava a Sando, quindi sono imbucciato la mani di voce, ma non passava, manco per il scatto. Non passavano. Aspetti, cosa vuoi fare? Purtroppo l'ignorante è sempre di turno, purtroppo. Però Claudio è andato a mangiare, c'era Grod, c'era Codigente, c'era Vittorio Giove, ma noi siamo entrati in un bel po'. Meglio così, no? O meno. Domenico Cardanetto, sentito sì? Sì, l'ho accompagnato un pezzo, poi mi ha salutato, mi ha detto che stava per entrare in galleria e mi salutava che deve essere si acceso lo stereo, bisogna sopra, perché da lì poi ti saluta e si accende la radio magari. Gliappa, va bene. E la giudizia cammina a Olga, quando arriva a Olga cammina al centro della strada. Dice perché? Che non si sa mai che esploda qualche parte. Ah, in dora a qui sono bombaruri, sono, devi stare attento. Io non tanto che da un po' di tempo che sta parte a Urbia, soprattutto sta girando una malavita di tutti i tipi, prostituzione, adesso da poco hanno falsificato i soldi e dice che è una falsificazione quasi perfetta, molto fatti bene, proprio, e sono arrivati anche a Sassari questi soldi falsi, quindi bisogna stare molto attenti. L'abbiamo detto, con i biglietti di 50 euro, 50 euro niente, no, bene. E quei biglietti lì sì. E quel riformatore che aveva la doppia macchinetta e clonava le carte di credito. Per il vestito si sono fatti loro. Praticamente tu gli davi la carta, quando la passavi c'era una doppia macchinetta che in una ti leggeva la carta e nell'altra te la sdoppiava. Mondo è fatto di lavoro purtroppo, io di tutti i colori se ne intende. Poi con quella tronata non avete ritrovato i soldi, già c'è una badina che ha ritirato a Urbia, anche se c'è stato, e che io magari non ho fatto spese così grosse. Infatti. ho cominciato a partire le denunce e ho scoperto che era questo rifornitore brutto che aveva parato. Capito, hai condensato le gabbetti, tu hai... Non sono lavorato, questa volta, Giulia. E quello, quella tua che era schiusa al produttore, cioè, allora io solitamente... No, un osservatore, no, quando passo nei posti, vedo con la macchina, per dire, c'è cazzo, c'è già 3 giorni con la macchina, tra me, no. E un periodo vedevo sempre questa roulotte, questo camper, sempre parcheggiato al porto. E l'ho visto per una settimana, per due, per tre, mi dicevo, cazzo, voi deve essere che stanno accampando qua con le gente di fuori, cose del genere, sai. C'ero di chi fa, invece non era così, i soldi che mi hanno fregato hanno messo la telecamere nei bancomat. Quando tu andavi a prenotare, loro avevano i terminalini, queste telecamere ce li avevano dentro questo camper, a questo camper sdoppiavano, tutti trovavano le carte. A questa mia collega gli hanno rubato 70.000 euro. 30.000 euro, meno male l'assicurazione della banca per il tema. Soldi ereditati, lei me l'ha detto, ereditati dalla vendita di 2 case che ha fatto il padre quando è morta la madre, ha venduto le case e ha diviso i soldi ai figli, capito? E 2 case di cui una bella grande, una villa grande che c'erano in campagna, una bella villona. E niente, mi hanno toccato tutti questi soldi, ma non era la banca di raccomandi, poi li hanno beccati, ed erano algerini mi pare. Adesso è un po', di tutto e di più li inventano qua, di tutto e di più. Io ho 2 o 3 colleghi che hanno fregato una 5.000 euro, un'altra 7.000, all'altra 3.000, cioè un bel di colleghi che hanno fregato soldi. Cioè, questi qui hanno fatto man bassa di tutto, e poi sono partiti fuori, ci hanno speso, quelli di quella mia collega ne hanno speso un bel in Spagna, di quei soldi che hanno rubato, di questi 70.000 euro, ne hanno speso un bel di soldi in Spagna. Pensa un po', pensa un po'. E guardiani di viaggiti, e dove si è fatto io? Ma io si è fatto di sì, ma non deve essere. Ma che cosa ho tutti questi buchi? Un'organizzazione devo essere. C'era la telecamerina piccolina piccolina nascosta, mettendo le telecamere, ti copiava il numero, capito? Loro lo vedevano, tu facevano il clone. Studiato al 100% la storia. Ah, è quello sì. Studiata abbastanza bene. Però guarda quanto si può andare bene, 1, 2, 3 volte, poi si beccano e tieni tutto, ah, non si becca. Pare che già presi la polizia spagnola, per castigare in Spagna. Perché senz'altro anche lì cercavano di fare lo stesso giochetto che stavano facendo qua in Italia. Sì, perché si sposta per la nazionalità, capito, di modo che così almeno... non li beccassero. Però l'altro poi ci trova. E la giustizia è fina. Giustizia è fina. Prima o poi, tanto vuole la gatta blanda che ci lascia un zampino. È proprio vero. Proprio vero. Tanta gente crede di essere più furbi della giustizia, ma la giustizia ha studiato. Non preparati per certe cose che tu manco ti immagini, cioè ti intrulli su internet tutte queste cose e scoprono tutto. Beh, loro hanno tutto il tempo che vogliono per scoprire qualsiasi tipo di cosa, di manufatture, di tutto e di più, e loro sono sempre lì a, sia al computer sia al di fuori del computer, tu neanche te l'aspetti, e quello lì è borghese, no, mi sono andato a guardare le grosse arretrate per gli spacciatori o chi per lì porta quella merce lì, perché sono truffolate anche loro in mezzo con loro, capito? E poi parte di la soffiata e mangiano e li beccano subito. Cosa stai facendo? Ma io guarda, nel tempo pagano anche i tecnici per andare in questi pedofili, per questi pedofili, tutte queste cose, ma che te le immagini che ci sono loro in mezzo, ma tu magari chattando su internet stai chattando con un poliziotto, con un finanziere, perché loro stanno, ci sono tutti che ci stanno 24 ore su 24. Infatti appunto per quello sto dicendo, c'è poco da fuggire, c'è poco da fuggire. Allora, mi telefono a questo amico da Roma. Ah già, ciao, come stai? Stai da picca un'occasione, ma te voglio chiedere, siccome io ho sempre avuto la passione della fotografia, ha pensato di chiederlo a me. E mi ha detto che praticamente su internet avevo beccato una Canon, una macchina fotografica di marca, che è nuova, costa praticamente in negozio qua a Sassari, a Roma, in qualsiasi negozio dove una macchina fotografica, vede su 1300 euro. E lui l'aveva beccata a 620, una cosa del genere, e ha detto va. L'affare sembra buono, ma non ti fare incantare, dimmi con che cosa la devi pagare. Questi junior, ho detto, molla tutto e non la prendere. Ah già, lo stavo per un dire, non la prendere con questi junior, che mi hanno già fregato 200 euro a me con quel pagamento lì, ed è una, diciamo, organizzazione allucinante. E fatto sta che non l'ha presa, l'amico non ce l'ha fatta a bloccarla, gli ha mandato i soldi ed era molto di più perché ne ha preso una più costosa, 1000 passa euro. Boh, lo sai che non è mai arrivato un... Non puoi fare, diciamo, un'organizzazione da paura nei benefici. Da stare molto voglio capirsi, non è così facile, ma... Quando io sono andato alla polizia postale a fare la denuncia, sai cosa mi hanno detto? Che un organizzatore internazionale, sono qua, là, da tutte le parti, in giro di poche ore vanno dalla nazionalità all'altra, quindi tu non li becchi mai, li tirano su e scappano. Fatto sta che, come si dice, metto, non sanno loro, sino a quando non li becchi, fanno vita da una parte, se ne vanno in ristoranti, prima categoria, in alberghi di quelli di lusso e cose. Però prima o poi lo sanno che noi li bussiamo la porta e li mettiamo i ferri. Fino a quel momento lì però loro vivono da una parte. Beh, purtroppo così. Ma c'è cosa hai detto, cosa si fanno di milioni di euro al giorno da internet, truffando la gente? E posso immaginarlo, posso, non so che immaginare, va. Lo paghi, non vado a fare che tu paghi, loro ritirano e scappano, capito? Ritirano e sono di fugo. E se ne fugo un'altra nazionalità, quindi non li becchi più. E dove vai a beccarli? Perché questi che avevano fregato a me, avevano fatto un sito tutto bene, con il dopo trasportatore, il nome dell'autotrasportatore, hanno messo che era un power seller, che praticamente power seller significa che sono quelli che sono più affidabili, capito? Con tutto che gli abbiamo telefonato, ci hanno risposto al telefono, ci ha detto, ed era un napoletano questo, ha detto, guarda che col Galaxy Saturneco ti diamo, allora praticamente una cosa era questa, era un Saturneco nuovo, che praticamente gli era rimasto in negozio, ne aveva tre, e mi aveva fatto la proposta perché mi aveva visto che stavo, che ero sull'asta di eBay, ma non so, tu non è che non ce l'avevo fatta prendere, e questo mi ha detto, guarda, se ti interessa, abbiamo preso la palla al basso, capito come fanno? Ti seguono, guardano cosa giochi, cosa fai, fa e vivono in contatto, non capito? Allucinante, va. Tutto organizzato alla perfezione, telefonate, ci hanno ascoltato, e come sempre mi hanno detto che loro in Inghilterra avevano queste casse telefoniche dove tu praticamente la metti dal telefono, ti serve solo per rispondere, una volta che tu hai risposto le butti via, nessuno sa di chi era. Sapo, così il mondo, ha fatto il lato e basta, allora va. Ma già, io ti saluto, volevo andare in 144, ma non è possibile, no, in 144 non lo fai con tutto già. Ti saluto, ciao, alle prossime già. Ciao, ciao, aspettate, ci sentiamo, buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Perché ti ha chiesto? sono conosciuto anche a Pompuglio che è entrato, ma prima ero stupito perché non aveva parecchio diminuito, cioè il giorno a chiedo non ho altro. Lui mi di solito arriva bene, fatelo, ho fatto un depisciano di risate, Antonio. Centrato di vecchio, allora che picco. Mamma mia, mamma mia. Oi oi oi. Antonio Bombo, lo riprendi. Cosa devo sentire, cazzo? Sì, è proprio fiaco di fava. Non c'è niente più, guarda. Fiaco di fava. È peggio, credimi, è proprio peggio. Ha detto Maria, mi piglia la giacca ai gamboni. Quando va, poi vuol dire tutti i carti in fila, cazzo. E li faceva papità uno a uno. Quando papità tutti in pari, non si comprendeva una sega. E infatti era proprio così. Chi ti fa gente nei liberi? Adesso tocca a te, adesso tocca a te chi fa con gente nei liberi per fare la barucca al guapo. Disgraziato. Ah, molto poco. Cazzo, solo due mi volessi un'altra canale 4. Parla di 4 gatti in fila per 3 con il resto di 2. Ma bello che io sono centrato, il discorso è quello. Infatti mi è toccato centrato col peso contro 2 e 9, il discorso è quello lì. Devo fare destra, sinistra, sinistra, destra. Lo sai che da per 2 che lui è una cosa fenomenale. Quando la parete non cambia, c'è uno spostamento di frequenza di 5 kHz K2, quindi è micidiale. O cambia la parete, cambia l'altro, sempre uguale. La porra ad un grado. Ehi, va a capire, va bene il timing, ti giuro. Quando venite a Baracchino c'è uno spostamento di poco, mi, da una fabbrica all'altro. Mettiti un apparecchio professionale, agganciato, quello che vuoi. Basta che esci come si deve, porca miseria. Però che non gridi, perché quando gridi mi sembra il sindaco di Praghe. A me a me mi piace che sta a vedere i muizi, usato in tre canali. Siccome mi stavo cercando, ero 3 ore con la portante, fischiando, a fare bagno di canotte. Quindi sapevo che lì trovo la fiducia, sono passato giusto per... Hai capito, perché qui il base non è oro e niente. E poi io lì invece ho preso tu, Falchetto, Sandro, io Luppu. Tra due, a me sente. Ciao Antonio, ben sentito, qui ti ascolto, è immacolato questo come che ti ho. Ti ascolto, non tu altro. Immacolata. Ok, c'è anche molto povero, Sandro. Sando il barrato, lui mi ha colato, eh? K, io ti sento sempre a te, dai. Avanti, K. Vai, Sandro, vai. No. Cioè, sono... rimango in ascolto un attimino che sto smaltendo un po', vai. Cosa ti arriva la barrucca, burduta ti fa? Non ti preoccupare. Quattro gatti in fila per 3 con il resto di 2. E Maria, aiuto tu, stai pure parlando bene con la radio. E tu non ce l'ha pigliato. Giro, tiro, filtri, controfiltri, la girata a cabatterra. Non si comprendeva, l'uomo non migliore. Maria Don Bacchi, quando cantava non son degno di te. Non ti danno di più. No, pure sai qual è il problema, Cla? Che io andavo a centrarne uno e l'altro si intendeva tutto male. Ioi, come sto? Io non mi conoscevo bene, era Antonello, perché c'ho una radio sintonia continua, quindi, come sta? La faccia di tutti sopra un attimo, ma dove siete? Mandala a tirare, cazzo balli di appiccare tutto all'aibur. Almeno quello che è entrato, grazie a Dio. Ma gli altri, tutto, uno dietro all'altro, un casino. Ma sai cosa che bene nome l'ho dovuto fare? Mi sembrava di conoscissimi, destra, sinistra, sinistra, destra, cioè, a capire uno all'altro. Io non ho già parlato, se ci senti fa bene. No, a me mi si è cambiato il colore dello smitter e del frequenzimetro. Tu Sanrico, avevi tolto l'eco perché ti sentivo molto rimbombante, in linea di massima si è centrato, ma gli altri non capisco, sentivo gnomani, gnomani, gnomani, tu cazzo che... Ma cosa vuoi, va benissimo, no? Sì, che di tecla, capite di non uno? Niente. Oh, più a capra due. Vai servito. Qui siamo, tu cazzo. La serata, sai, i palestri superattivi. Gianni Capedù, non ho capito una sega. Cosa hai detto? Torino uno che aspetta per un cantatori. Voglio andare in pesteri su. No, è da quello del sardo. E bravo un coso. Pinucetto, te lo conosco a... Ma lo faccio vedere. Tu vedi su baracchino un po'. Ho capito niente. Oh, un attimo. Non si è capito l'accidente. Niente. Ciao. Come va? Ciao. Ciao. Ciao. Oh, ciao. Oh, mi è venuto in mente un particolare adesso. Oh, Cla, non so se ti ricordi tu la Bonaima di Lello. Di Lello Pistacito quando era su nel pescheccio che si metteva attaccato al baracchino. Te lo ricordi? Sì, adesso. Thank you. marito. Ma chi? Questo. Tu, capi due? Eccolo qua. Oh, ecce sì. Bombolo. Già, ci sono. Cazzo, manco più la FM se la frappa ai nocchi. Oh, tutto casino, senti. Falchetto, l'ho già sentito. Sandro, ci sei. Antonello, c'è. C'è qualche altro che vuole entrare nel canale 10? Tu non stai riuscendo, chi sei? No, vi faccio sentire la voce. Siete Bossi, è Bossi. Chi sei, è il Trotta? Avanti, Radio Pavania, buonasera, ben sentito. Voce in radio. Ecco di la ferra, ma è una mara. Luca. Lui. Buonasera, come sono stato come Radio Palania. Io sono il Trotta. E voi sono incazzati. Ah no. Come sentirli là? Ti incumbe? Questa poca di roba. Non immaginai io. Lì bisogna stare attenti, siamo un casino. Ehi, vabbè, ma mi sono divertito parecchio, guarda. Non ho conosciuto nessuno. Mi chiamavano avanti per anni, avanti per... E poi scoppiavano quell'altro, mamma mia, quanto ce l'era. Alleluia. Attento il Trotta, ci sei, metti importante. Beh, sicuramente qualcuno che non sta conoscendo, Dove? Poco fa, quando magari c'era difficoltà a non uscire per quello che non riuscivate a sentirlo, capito, grazie. Bisogna avere bocchiera. Pazienza, pazienza, c'è tempo. E quando entrare, basta entrare, problemi ce ne stanno. C'è posto per tutti qua. Un posto per te. Dai, caro, tutti sì che mi cabinevo. Basta di guai. Dai, caro. Ho fatto un DX, mezzo la fa con la Spagna. Santiago nome, caro. Andare. Sì, ma non c'è l'acqua lì, però. Mi è dispiaciuto qua. Era nel canale, ma mi è dispiaciuto. Non c'era lei, se non facevo Antonio c'era duro e la padania. Non sei in banda, non lo fare se non hai meni, non siamo in banda. Dimmi. A voi che ti ascolto, mi sembri... cosa posso dire, guarda, però ho detto, sei madondo a te, perché non ti capisco. Dai, vabbè, da me. Adesso ti sento bene, visto, Bravo. Ai, caro, buonasera, fa un passaggio di controllo, prima che per Luca. Uno, due, tre. Va bene, lì, avanti, come di numero? Ma se vediamo cosa? Oh, io, dimmela. Un passaggio. Guarda a vedere, watch un tri. 9:10. Va bene. Io non vuoi credere, no? Che tu mi hai rubato il vento. Ma la Patio Smith. Forse potrei fare il tri. Accetta 9:30. 9:30 qua, pompo. E tu mi hai rubato il 10, Aspetta un attimo. Fa un passaggio adesso. Non mi rimandi, perché io ho fatto in chili, posso la vita roba nei roghi, se ci male, poi ti porto via anche con la parecchia. Certo che parlo, già lo sai. Ho fatto il scopo di antenna, che era quella adesso perché c'era il 10. Tanto sono quei 10? No, sei di più adesso. Andava là. No, perché io sto usando... Aspetta. Cazzo, oltre 50 watt sono, 30, sì. Ho usato poco fa il coso, ma ho fischiato l'antenna a zero, capito? Mi sono dimenticato che di sopravvallo. Di sopra io ci ho sempre mai, lo sai anche tu. Oh, Brigella. Ah, ma ci vediamo comunque, Claudio, vieni a Cla. Qua c'è il 935. No, questo non sai com'è, no. Si prima aveva sempre problemi, adesso si non aveva più fatto quel problema là. Ho fatto l'altro quando piove con me. Forse anche la si riempiva di... lì, era perché era Luigno, io facevo il buco, comunque a Luigno lì. Era la paparetta, era l'acqua e forse facevo quel problema lì. Il ciruccione devo rimettere. Pasellina ci vuole, pasellina. Pasellina la uso quando devo usare il moto picco. Per la canna. Ma vado. Capri due, lo senti a Luca. Come sentito, buonasera. Mandato umile, sì, ho capito. Avanti, capri due, vediamo tu che sei più lontano, se ascolti Gianluca. Se lo ascolto più pio, comunque buonasera Gianluca. Gianni Caprilù da questa parte che ti super cordializza dal Cuti a Caliburo. Pio Pio ti ascolto Gianluca, immagino che diciamo. Certo, mi ha abbassato Gianluca. Comunque, super salutoni e. Bene, anche te, Raiù. Ma Gianni Caprilù ti ho sentito anch'io, Pio Pio, buonasera. Cordialità, purtroppo le situazioni da te non sono delle migliori, c'è ancora in macchina io. Dice in frequenza. Linea Drake, non... Linea Drake. Sì, può Si chiama FT950, tu mi dai tutto quello che hai, compreso anche il garage. Aspetta, prego Maria. Guarda, stai minacciando, vero? Guarda Maria, se vai via col 950 non ti parlo più, eh. Facciamo come nel Genoa, ti prendiamo a pomodori. Per parlare con Saona, Manzano, per parlare con Saona. Cosa c'è scritto? Gianni Caprilua nel pullman. Certo, CP Gianni Caprilua, clan nel centro. Come con i bandieri, Sandro? Dico la bandiera, però cosa fa il tifo a Gianni Caprilua? Falche! Falche, tu sei dormito. Arriba, arriba! A fare! Sono ora, come presto, per 2 o 3 minuti. Ma quali? Io come ti si chiama? Io coso mando con i vari. Effettino 950 sto usando io. No, che tu valvolare, che mi dica ancora, come si chiama? Quello valvolare che c'ho io, il 101. Ah ecco, ma si assomiglia al 902 DM? 902 DM è uscito troppo il 101. Prima è uscito il 101 ZB. E poi il 902 DM, bellissimo, l'ho avuto anche il 902 DM, ce l'ho qua nella foto, io avevo fatto tutte le fotografie, ma non ero neanche radioamatore, era un piratone. Peccato cazzo, mi sono come gli rimani, era vivo, fiammante, bellissimo era. E quanto lo sto dando quello lì, dove è Z101 lì? Io non lo sto dando, no, lo sta cercando Gianni Caprilua. Il 902 DM, se lo vuoi, a poco prezzo, adesso non so quanto, ma non molto, ce l'ha Carlo di Chiaramonti. Infatti a me me l'ha proposto in cambio dell'850, ma non me ne faccio niente. Perché non me ne faccio niente? Perché il 902 DM è una radio praticamente con lo stadio finale a valvole, c'è il preselettore, come il 101 ZD, come il 101 digital che c'ho io, c'ho il 101 digital, e dopo il 101 ZD. Prima hanno fatto il ZD, poi hanno fatto l'FR101 digital, che è quello che c'ho io. Il 902 DM, Luca, praticamente allo stadio finale a valvola, quindi c'è il preselettore, ogni volta lo devi accendere, come la linea Drake, ogni volta lo devi accendere, mezz'ora prima, capito? Fare il preaccordo col preselettore, aspettare che le valvole siano calde e poi andare in trasmissione. Agando divisione 1 mi sono qui a cagato. Allora guarda, non voglio essere, non voglio mettere le mani sul fuoco, adesso aveva fatto il nome di Carlo, molto probabilmente è quello che avevo io, perché io l'ho dato a una persona che probabilmente al 100%, perché lo conosce bene, si frequenta o comunque sia, guarda, non sono sicuro se è quello lì, guarda, però al 90% è quello che avevo io. Quanto lo sto dando per curiosità? 100 euro ne vuole. Allora, te lo dico io, tanto non ho problema, che non devo dare nessuno, quello lì era di Piero Alga. Gliel'ho dato io a Piero, è quello lì, punto, basta. Quello lì è, quello facevo io, è mio, Gliel'ho dato Piero, perché me l'ha detto lui, capito? E lui, immaginati, a Piero l'ha dato il C80, allora dimmi tu se si può fare un'operazione del genere, cioè, io l'operazione l'ho fatta, ma siamo andati alla pari. Capito, siamo anche alla pari perché tra l'altro mi sono sentito anche un pochino, c'erano queste 50 euro, 80 euro di differenza, gli ho regalato la colonnina, ma le cose si fanno con la testa, cioè cacco, tu non puoi dare un 902 DM e farti dare un C80 che vale 300 euro, il 902 DM è anche una signora radio, a parte il fatto che vale il doppio, ma è una signora radio in tutto e per tutto, sia come ricevitore che come trasmettitore, a prescindere dal fatto che sia una radio a bande decametriche, non è a sintonia continua, è a bande decametriche, però è una cosa allucinante, io l'ho avuta, capito? Quindi una cosa è proprio da pazzia, dare un 902 per farsi dare un 680. Ma tu io che peggio di chissà? Meraviglio, me la viene data a me, ma una cosa dopo me l'ho ridato, ma sai per cosa ragionare giù di 502? Ma un cazzo di 757GX! E anche tu, cazzo, boh. Oh Gianluca, anche tu non si fanno queste operazioni, capito? Io ho dato la linea completa, Giampaolo ce l'hai vista per l'850, ma c'è una linea favolosa, se stiamo parlando di un 430 con la T250, con la colonnina, le manca l'alimentatore, ma prima o poi ce lo procuro, ma sei già lì come prezzo, capito? Ma non puoi dare un 902 per un 757GX o per un 680, è da pazzi, capito? Avanti Becchi, buonasera Antonio Claude. Ciao Claudio, ciao Gianlu. Mi sentite per ascoltarti da questa parte di Grotte? Ciao Antonio Claude, mi sono un attimino, lentamente a chi sono venuto a lasciarmi le lacrime, un attimino. Gianlu, se la prende la morsi orecchie. Se vai da prendere a morsi orecchie non si può fare un'operazione del genere, capito? Per dare un 902 DM puoi fare il cambio, guarda, tranquillamente con un 850 a pari prezzo, con un 440 aggiungendo anche soldi, un 440 più almeno 200 euro, per dirti, capito? Puoi fare un cambio con un 101 ZD, ma a quella, alla pari lì, ma non un 680, 680 è un baracchino, sintonia continua, 140 sono baracchini a sintonia continua che valgono 250 a 300 euro, non di più. Cazzo, 902 DM io l'ho avuto, è una bestia come apparato da vedere, è uno spettacolo, perché è uno spettacolo da usare, se uno è capace lo può usare tranquillamente anche il 27. Io ci avevo il, come si chiama, come microfono avevo l'MD1 B8, mi sembra, della IAIS, andava benissimo. Ma torna al discorso, dai, lo spettacolo su era 25 kg, mi pare che pesava, no, 25, aspetta, è bugia, diciamo 20 kg forse, se ricordo bene, però non lo so, guarda, se a livelli di quella grandezza del 101, cazzo se la vedo, cavolo se fa bello, non ricordo bene, preaccordo per scaldare il vado, lo stadio finale, sì, la trasmissione a vado e la ricezione a transistor, come no, avanti Antonio Grotte, stasera proprio stavo nominando con te con una persona e domani mattina mi deve dare quella risposta per te. Qua di Roger, ti ringrazio. Ma sei distanza qua Sierra Sierra? No, negativo, ero prima da quelle zone lì. Però dopo sono sceso e adesso sono a casa, il tuo perché? Che stai arrivando in una maniera devastante, sì, Santiago 9.10 a picchi di 9.20 con una radio di 5 perfetta, hai mai sentito così bene se sei realmente a Papatango? Sulla telefono, sono col ferro vecchio delle 757 in discussione, siamo con la radio che stiamo parlando di con Pasqualino, capito? Ma il microfono non è quello, il microfono è un signor microfono. Condizioni meteorologiche evidentemente decisamente favorevoli. Ma lo sento anche io, lo sento qua, un po' forte. Vabbè che in questo periodo sei a Buglia, mio Gianlu, non so se crederti, Ma un attimino a tornare, ma no, sono a casa, tranquillo, già lo sai. Pasquale, riprendi un attimino che mi sto levando i pantaloni, mi sto mettendo un attimino qua in tenuta la camera, mi... Ok, un secondino, vi ascolto, però non posso, un attimino, faccio chiamata gli appena possibile. Stavi comprendo a bombolo, vi siete sovramodulati per un attimo, tu sei qua sotto, sei al Conti o da qualche altra parte, ma non sei a Papatango, finirà. No, è poi dottore, già che qua arriva così 9.10 come stanno, 9.10, 9.20. È poi dottore, se ho quanto... Vai tranquillo, la modulazione lo sento. C'è Gianni Capri 2, mandiamolo avanti per Antonio il Grode. Gianni Capri 2, vieni avanti, cambio. Sì, buonasera Grode, super salutoni, ti super ascolto a Porto Scala, anche no, anche l'amico di Porto Torre della sua lingua. Con Santiago quasi 9.20, infatti molto con noi da Porta Torre arrivano pure in forte. E va benissimo. Però qui stanova che sono le 23.19 qui che mi segna un apparato, mi devo super lasciare perché domani alle 6 sono già in circolazione, quindi è stato bello, abbiamo scherzato, divertito e mi dispiace a malincuore a lasciarvi. Rimetto il tutto a Antonio con la buonasera, di nuovo vorrei rimettere il cambio, ascolto i finalini, e poi chiudo. Ciao Antonio Pombolo, ciao Luca, ciao Sandro, se ti ancora ascolto, tutti gli altri amici che non mi ricordo adesso tutti i nomi così, Antonio e via dicendo, diciamo. Riprendi Antonio Pombolo e capisci che ti rimetti il cambio, vai. Ah, ciao Gianni, ti chiedo scusa a tutti gli amici in ruota se non ho fatto abbastanza QRX per poter salutare tutti. Ti super cordializzo, buon QRT e buon 144 e buon trabacco per domani, dai. Faccio girare per Claudio che passerà agli altri. Avanti Claudio. D'accordo, ne prendo io allora. Ciao Gianni Caprio2, buonasera, ben ascoltato e alle prossime. Ci sentiamo. Grazie per le due chiacchiere, grazie per la disponibilità del QSO in sistema scherzoso. Ok, chi c'era? Lui, giù per subordinamento. Antonio Valisci, ancora ci sei? Yeah, ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime. Stiamo bene e ci sentiamo. Avanti, Cla. Gamba, a me non mi vede il traino. Anche Antonio non c'è problema, bombolo. Ciao Gianni Caprio, tanto lo so che non mi senti. Grazie, ci vediamo le prossime, io già ti sento. Ciao, sai che non chi, io sa, io non chi arrivi. Cosa, tanto le butto torno, arrivi 9. Tanto, senta a me Gianluca. Gianluca e Sandro sono quelli che hanno il segnale più alto, qua Sandro è 9.20, ma anche Gianluca a volte 9.20, 9.15. Vanno molto bene, hanno zone molto buone, capito? Sono tutte e due aperti per Sassari, quindi non hanno problemi. Arrivano molto bene, poi ricevendoli con questa radio o anche con l'8.50 che sono molto, molto selettive come segnale, il segnale è quello, no? Che scappa, eh. Non c'è niente da fare, va bene. E allora Antonio, che si dice? Siamo, che si dice? Un poco, non sono tanto stanco, ma un po' carico. Cioè, ho già lavorato, c'è il lavoro. Meno male, per fortuna è uscita qualcosa. Adesso sono qui. Comunque stavo dicendo, stavo ascoltando, e allora, comunque non l'ho mai sentito io così a Gianluca. A stasera mi arrivi forte, mi arrivi. Mi arriva sempre forte. Ma invece è importante che c'era nella zona vostra, siete riusciti a capire chi era. Ma era qua, perché ero troppo sicuro, guarda già. Tanto passava tutti i gatti, poi passava più forte che mi arriva qua, già lo sai, quello che mi arriva più a pompa, cazzo 2 più 2 fa 4, cazzo era in ottica. Qua manco, manco l'ho rilevata io la portante, per niente, proprio non arrivava per niente, quindi sicuramente qualcuno con qualche portatile o qualche baracchino lì vicino a voi. Ma dai signori, io vi saluto, sono 10:30, non è domenica oggi, neanche sabato, ma lunedì, quindi domani si lavora. Pertanto vi saluto, grazie delle due chiacchiere a tutti, come sempre. Ci siamo un po' sbizzarriti, ma fa parte anche quello del... per poter passare 10 minuti in allegria, beh. Ciao Claude. Sandro Porto Torres, Gianluca, Capri 2, Falchetto, Antonio Bombo, Antonio Valesio, chiunque fosse in ascolto qua sul canale 10. Claudio Sparviero, ascolta il finale, poi chiude, QRT stand by, ciao ciao, buonanotte. Ciao Caccia. Claudio, salando? Andava già lui, domani mi lasci pisare i giri, sono già alle 11:30 e se no mi canta il cucco, dai. Comunque approfondiremo il discorso su quelle radio un po' più, con più calma, dai. Un saluto circolare a tutti, buonanotte. Ciao, ciao Claudio, saluti da Nino, anzi Gino, come si chiamava? Ciao Pasquale, buonanotte, guarda, io ho sta per essere a mettermi lì lì. Computer sta per essere. Ah, culo. Mattina. Allora. Notte, buon tutto. Sentiamo domani mattina. Domani mattina. Domani, dai, se coincide. Io dico sempre domani mattina, come ti sia sempre una cosa che si può osservare. Uno deve vedere i suoi impegni e le sue cose. Buonanotte, quanto è tu? Ciao Gianlu, complimenti, mettici non una goccia, un bidone di colla come hai settato la situazione, perché stai uscendo una bomba, mai sentito così. Comunque buon QRT, buon 144 ancora Claudio, quando lo farai ci sentiamo domani se coincide. Avanti, mi è parso di capire che c'è anche Farchetto e chiedo scusa per non averlo salutato. Avanti Antonio. Campo, la riprendo io. Ciao, buonanotte, grazie, la risentiamo le prossime o domani. Ah, mi senti, Sandro? Ciao a tutti, buonanotte, a domani, ciao ciao. Sandro, attenzione Sandro di Papa. Antonio, cosa? Gli puoi dire se mi sente di Apollo Torres? Attenzione Sandro di Papa Tango, se mi ascolti. Farebbe mai chiuso. Data di Roger. Ma è pedalino un altro Fabrizio Occhi di Gatto c'è? O è sempre in ascolto, con le mani impegnate? Ah boh, non ho sentito per niente, sono nel lavoro. Ciao Antonio, che è tardi, buonanotte a tutti. Ok, ci sentiamo domani, dai. Ciao ciao. Ah. E beh, Antonio. Allora, cosa mi dici? Ma gamba, io comunque sono sempre curioso di quella situazione là. Ma di Roger, quando ci sentiamo, quando ci vediamo in verticale, ti dirò dai, ma assolutamente non pensare che sia chissà cosa. Tra l'altro ho seguito il tuo consiglio, ho provato a ricaricare una cosa e è andata bene. Ah, hai fatto la modifica all'antenna? Non è esattamente quello che intendevo, comunque. No, no, l'antenna ancora non l'ho modificata, è sempre la stessa. Non me lo ricordo che consiglio è. Devo ricaricare una cosa piccola. Madonna, tanti pensieri che ho, adesso non mi ricordo. Quella cosa, quella bomboletta a stampeggio. Ah, sì, aveva detto che muri a cucata. Tanta di roba, già sta pingioso. Sì. Ma che ha fatto? Quanto l'hai entrato? Quasi tutta, era 2 kg. Gamba, quella è spurgata appena. L'ha spurgata anche? No, è già tutta. Ma vuole fare il luogo aperto, Ma che... Allora, quando tu hai aperto, però si è entrata. No? No. Ma Antonio Grosso è... E allora, chi c'è rimasto qua? Pomponio. Gianluca, mi senti? Chi sei, avanti? Pomponio, Zocco, Pombo. Tu. Come stai? Bene, bene. Ma arriva molto d'ora. E Antonio, però tu devi farmi... Devi fare un miracolo prima o poi lì. Ti avrei sentito anche io, ti avrei sentito, porca miseria, guarda. E sei con tutto... Con tutta la situazione che c'è con quel rame stasera, riesco a levarti fuori, se no guarda, veramente non ti sento quasi mai, Gamba, se lo contrattende, non so se lo contrattende, un baracchino normale, dai. Se lo contrattende 4 watt, magari si attacca una radio, mi senti meglio. Ma sempre l'antenna del buongiorno c'hai? Daggi un buongiorno, no. Daggi attaccata alla porta a finestra, in alto. Ora, E guarda, adesso proprio ho capito proprio tutto il discorso. Oia, oia. Adesso è una cosa, poveretto. Non puoi fare qualche cosa per arrivare un po' più forte, non puoi fare nulla tu. Senti un attimo, lo faccio. Così mi dici che non ho capito bene se c'hai l'antenna, se ricordo bene, se c'hai l'antenna sempre sul poggiolo oppure se l'hai messa su, che non ho capito bene. Attenzione, popolo. Aspetta, avessi mettere la mano. Ciao, Gianlu. proprio smontatore. Beh, KK, non c'è problema, dai. Gianluca, mi senti? Adesso Antonio, che la musica è cambiata. Aveva Cosanti Agu Zin con Radio 4, mi si arrivende, va. Ma non so, non avevi chiamato Santiago Zero, o uno che sia. Quindi io faccio su proprio, mi proprio, mi rovedo proprio, poi una cosa dall'Africa. E cappa, e ancora dovrà prendere una radio normale, fai no che andava. A poi da vedersi il segnale aumentato così, da poi torna a basciare. Ma tu adesso mi stai arrivando Santiago 5 più, nel senso che sei Santiago 5 con picchi positivi. La radio non è tanto forte, forte, forte, tanto, però riesco a sentire, a capire cosa dici e a risponderti. Cappa, e a chi faccio il microfono e faccio? No, assolto l'agente, no, che sassari. A poi da vedere se è più potente così. Adesso si è aumentato più. Non so se hai aumentato la voce, o aumentato il microfono, il Mickey Gator, il baracchino, non lo so. Se ti sei sentito un po' più forte adesso. A chi ha già aumentato il microfono, ha già aumentato, è compreso. A Maro tengo buschisi, no, la gente che fai, no, cassassari, da buona sotto la rete. Non so, allora, grode. Però dirò, ho avuto un attimino di blackout e sono dovuto riandare a passare il contattore, capito? Ma come ti vai? Anche di là come ti vai? No, c'avevo il coso, l'asciugatrice accesa e anche il termoconvettore è saltato tutto perché c'ho qualcosa attaccato anche qua. Ma dico, cosa c'ha? Un 3,5, 3 kW e mezzo? La paroggia, però è fatto male l'impianto perché scatta prima giù e poi su. Quindi è tarato male su, capito? La domanda a lei, come ti ha giù fatto io? A pulitina non manco 10 kW. A 10 è un pezzo. A 5 già andava bene. In proporzione conviene quella da 10 o tanto. Credimi, io giù c'ho la saldatrice, non l'ha dato quasi mai. Però il compressore ce l'ho attaccato. Gli elettrotesi li chiuso io, di più poco uso 1800 watt, di più poco. Quando non la uso la presatrice, che è 1300 più 1800 del bidone aspirante, e so già, si mamma da triga attacca lo scaldabagno, la lavatrice o lo fuori elettrico, brinca tutto. Non ho la pinza tu, non ho mai presa quella a filo continuo perché non ne faccio un uso che dici sì, la usi, sai, anche per ubittica e ce l'hai, cioè 300-400 euro quello che è, perché costa così almeno una media, una bella trattazione a filo continuo, diciamo così, discreta, la paghi quella cifra lì. C'è ragione. Sì, poi la saldatura a filo continuo è comunque una saldatura bella ma debole, quella elettrodo è molto più resistente, dai. Devi vedere sempre l'impiego che ne fai, Antò. A filo continuo è la classica saldatrice che si usa nella carpenteria leggera, nelle officine di carrozzeria, saldano lamiere, 10 decimi. Qualche punto di saldatura rinforzato perché si aumenta e comunque sia, se fai anche una, due o tre passate hai una bella consistenza di saldatura. L'elettrodo è per carpenteria pesante, e tubi AC, ferri AC, insomma un po' buddhisti, così un po' credo a livello di cantieri, ho preso. Però vabbè, una cosa è quando stai fondendo tutte insieme, una cosa invece quando l'estruso te lo butti sopra, capito, già sciolto, è diverso. Comunque il filo continuo si utilizza per tutta una serie di cose dove non ci deve essere scoria, per il motivo per il quale puoi andare tranquillo, ci deve essere una saldatura continua, tipo quello delle, quando fanno le bombole, quando fanno i serbatoi, per cui non c'è un'interruzione della colata. Esatto, perché dopo lì le saldature sai che vanno sottoposte a radiografia. Vanno sottoposte a radiografia secondo che cosa è, ma attento, anzi a pinza noi quando lavoravamo in un'officina, in una carpenteria, andavano messe a fare radiografia, anche nonostante che erano messe a finta, che subiscono, per, come dici tu, l'interruzione, dopo devi ricaricare l'elettrodo e ripassare. No, ma la filo continuo ti permette di saldare proprio quelle cosettine, una marmita, un sapporo, una cosa, sai, è perfetta. Ma per forza, perché non hai il problema di bucare il pezzo, perché non scioglie, non scalda il pezzo, gli incoli l'estruso direttamente sopra, capito? Però ha il problema che ha trazione, comunque non è molto resistente come saldatura, quindi va bene attaccare, a unire, però non più di tanto, molto bella da vedere, sì, capito, no? Difficilmente poi, a seconda che abbia il gas o meno, non si ossida neanche, quindi rimane bella luccicante e ottima. Poi ci sono saldature, come dici tu, che non vogliono neanche molate, neanche passate col disco lamellare, se non che magari c'è salda d'acciaio, che conviene sempre dargliela una passatina nelle giunture, ma giusto a livello estetico. Secondo te cos'è, se fai delle ringhiere di barca, che lì lo sai che deve essere, sembra che sia un colpo unico, quasi quasi neanche si vede la giuntura. Solo neanche le tocchi, eh. Poi Rogero, chi è che è rimasto in ruota oltre a Antonio? Avanti. Manda in tre a ballare l'Alligalli, dai. Avanti, Anthony. Che fa? Chi da elettrodo se debba fa fare i slamierini, si salta verde, si salta, invece va a fare roba grossa di fugancelli, fa salta cose così per questo elettrodo. Ma poi se vuoi fare una righisi, saltature proprio perfette, troppo di lusso, allora non vede niente, tratta pure un cannello, tratta. Sandro, ma Gianluca mi ha inteso? Lui l'hai copiato, sì. Sì, non proprio tutto però. Scusa Antonio, perché qui ho toccato un attimino il volume. Antonio, dimmi tutto. No, ero dicendo che se vuoi una saldatura più perfetta, vi vuole un cannello più. Ah, quello è vero, quando devi fare dei lavori particolari. Salvi con l'argentana, con l'ottone, quello sì, devono essere lavori particolari però, e devi essere anche bravo, io non l'ho mai usato il cannello, ho visto persone a fianco a me, aiutarle, e qualche punto l'ho messo come con la filo continuo, con la finta lo faccio, niente di particolare, nonostante sia, non è che siano queste grandi saldature, però un ballo di lanterna me l'hanno sacato, da dove è? Quelle altre cosettine così, a livello però di ferro grosso, perché sono buchi, Salvatore è un mestiere, chi sa fare Salvatore che salda con l'argentana, che salda con il cannello, che salda con la filo continuo, con la pinza, con tutti i tipi di elettrica, il basico, il cito basico, e via dicendo, è un operaio, cioè un bravo, è un mestiere sulle mani. Per cappa. Ti vorrei dire, ma lo sai sempre chi da antenna vai? Chi da Sirio? E cosa tu? Ti fai sempre chi da antenna, la Sirio. No, ma dove però? In casa? Niente, la cubitura a Doglia, a casa a Doglia. Cosa sei da antenna va? Chi io? Io. Aspetta, non c'è un peso, scusa tu, non c'è un peso, mi stai parlando l'antenna di casa o della macchina? No, chi sa di casa a Doglia, chi sa se trattende là, quello se trattende. Ho capito, tipo la rotola turbo, quella rotola radiali. Normalmente lo metti di Giamma, 8001, una cosa del genere, non so se Midran o cos'è, non me lo ricordo. Io 2008, ce l'ho io qua, lo devo montare su questo QTH qua. Guarda come ti sta arrivando, Gianluca. Sei Santiago di 8 a picchi più, quasi 9. Dai, vedrai che è come molto quella stessa antenna, che è quella che ha la carica coperta da quella specie di campana di plastica. È una 5 ottavi, una serie 2008, esiste 2008 e 2016, a seconda che abbia 8 o 16 radiali. Ma questa qui la plastica non ce l'ha nella cosa, si vede la spirale del rame tipo rosso, amaranto, che va in giro, non è a protezione questa qua. Allora gli si è rotta, perché quella lì nasce con una protezione, una campana di plastica. No, guarda, così mi lanciate, così l'hanno piazzata. Strano, se è un assidio 2008, doveva avere la campana di plastica. Scommetto che in punta c'è la gabbia antistatica che è circolare, una specie di due cerchietti, uno contrapposto all'altro. No, Anto, precisiamo una cosa, io non mi ricordo sinceramente come ti si chiama. Ti posso dire una cosa, chiede quasi come te l'ha matto per l'altezza, autoradiali ce l'ha di sicuro, ti ho detto che c'ha la spirale a vista, ma non mi pare che manca nulla in Kiwi. E le ultime, funziona bene. E le stazionali, la rogna è che devi controllare, se devi abbassare l'antenna devi sempre buttare in terra e tirare l'ultimo pezzo. No, allora ti dico una cosa, quella lì è una Sirio 2008, se te l'hanno venduta senza protezione della molla che c'è, della carica che c'è, che fra l'altro è un pezzo di rame proprio avvolto su se stesso, ci avrà almeno una decina di spire, quella lì doveva avere una campana di plastica a protezione di quelle spire, evidentemente l'hanno rotta, comunque ce la doveva avere, poi guarda ce l'ho uguale io, ce l'ho uguale Fabrizio, vedete l'Assirio, e su, come dici tu, c'è l'ultimo pezzo che sia bassa e sia alta, ma c'è un punto di riferimento che se lo metti paro come c'è scritto, c'è la stazionale pari a zero, e poi in punta d'antenna c'è una gabbia antistatica che è circolare, cioè due cerchietti contrapposti. Non me lo ricordo dei cerchietti, ti dirò una cosa per un'altra, tu guarda, credimi. Comunque l'antenna che sto operando adesso, capito? Già parlano bene. Le stazionali è. Adesso ne ho 1.3, ma è comprensibile che ci sia 1.3, capisci? Guarda, ti dico che è anche meglio della Mantova, l'unica cosa è che la Mantova ha lo stello più centrale e più grosso, però questa qua di buono ha i radiali che si avvitano, al contrario della Mantova che ha quei perni verticali e dopo un paio di volte che si pone già qualche corvo ne li butta giù, questi qua invece si avvitano e sono una bomba, l'unica cosa è se non c'è quella gabbietta lì ti si ossida la cortocircuitatura, la molla, capito? Relativo, però ti dura di più l'antenna, dai. Guarda, ce l'ho già l'anno scorso, mi sembra. No, vabbè, quando capiterà. E adesso ho visto che già l'abbiamo messo, con chi me l'ha data, l'abbiamo fatto le cosettine, messo il nastro, le robe, comunque l'avevo fatta vera, l'avevo fatta. L'unica cosa è che per buttarla a terra, per guadagnare un po' di stazionari in meno, bisognava scenderla giù, torna, cazzo, ma ero quasi in va. Allora, c'ho l'accordatore, l'ho abbassato da lì, dai. Se sarà l'occasione di manutenzionarla o di fare qualche altro tipo di lavoro, via. No, in realtà mi sembra che non è che abitavano tipo abitatura, mi sembra che entravano dentro una sede e dopo sotto c'è una vite che li blocca. Allora non è quello che c'è, allora non è la 2008 dell'Assirio, allora deve essere un altro modello, perché il bello della 2008 è proprio che si avvitano lateralmente al piede dell'antenna. Li prendi Anthony. Guarda, io pochi Sirio che ho visto, ti posso dire che sono degli antenne buonissime. Insomma, io ho utilizzato una Sirio adesso, quindi proprio adesso io sto utilizzando una Sirio, una Sirio 2000, si chiama, la 2000. E con l'antenna della macchina, non so se l'ha mai vista. Assolutamente sì, quella la conosco, la serie 2000 è famosa, assolutamente. E mi sembra che forse ne ho anche una. E ti posso dire che mi dà soddisfazione proprio. Boh, io guarda, non l'ho mai provata di andare la stessa, ma sono sicuro che una Sirio a me mi darebbe più soddisfazione di qualche altra antenna. Infatti Roger, mi dovete scusare, però si è fatto tardi, eh. vi super cordializzo e vado in QRT perché mi sono reso conto che di che ore sono. Ciao Gianluca, ciao Antonio, buon QRT quando lo farete, buon 144 e ci sentiamo alle prossime ore. Antonio, a girare per Gianluca. Ciao Antonio, ce la sentiamo alle prossime. Avanti Gianluca. Ciao Antonio, dai, ci sentiamo alle prossime, buon QRT, buon tutto per domani. Se ci sono novità già ti faccio sapere. Avanti Antonio che ha già salutato, dai, io lo stesso cosa vuol dire, rimango qui un attimino che sto controllando altre due cosettine per il computer, ne approfitto e dopo passo anche io in QRT perché domani lo stesso non mi sveglio presto presto, vado un po' più tardi però non me ne voglio manco bisogno all'ultimo momento. Ok? Dai, ti saluto anche a te Antonio, buon tutto. Buon QRT e buon tutto per domani. Ciao Antonio, anche a te. Papa, che di chi sei nuovi, Sassari? Fatti vedere, ormai così conosciamo, va. Allora, vado a tutti, va. Antonio, ciao, buonanotte ancora. Cappa, ciao, te lo dissendi, ho già lo. Quando c'è che Sassari, che ti vediamo a Romanco, ti conosciamo, va. Grazie Antonio, non mancherò, mi fa piacere, ma ci mancherebbe. Sarà sicuramente un gran piacere. Ciao Antonio di nuovo, buon tutto, un abbraccio, sarà presto. Cappa, e pure anche di pure un posto d'ora, anche pure io già vi farò un posto d'ora, che butta. Cappa, per un periodo mi parlava pure spesso. Allora, ciao ciao. Vale anche per te quando sarai a queste parti, magari con l'occasione che tra poco saremo per i festeggiamenti di San Gavino qui che c'è la festa patronale, magari, chi lo sa, ok? Capo, mi avrà tra poco quando come se già il più da Bifaro, ok, ciao ciao ciao. E ciao, finisco un po' qua il computer, dopo metto la radio in stand-by, che diciamo così, quel re si fa una spattolata giusto per vedere se c'è qualcuno, ma non lo so. Ok, ciao Antonio, a presto. Ciao ciao.